Avanti. Sì, buonasera Franco. No, sto cercando qualcuno per una prova radio, perché non c'era nessuno. Lo so. Buonasera a te comunque, mi hai sentito dopo tanto. Fate mentire, facendo c'era Gianni e Alessio e basta, poi tutto morto. Avanti, dai, ti do una mano io. Sì, ok, devo soltanto passare a un altro apparato. Ecco qua. Un attimino, ti chiamo con l'altro. Ok. Hola, 1, 2, 3, mi senti? Ti sento molto bassa però, radio è bassina e il segnale è molto basso. Hai cambiato anche antenna, cosa è cambiato? Scusa, ma ho l'impressione di non avere antenna, non ho capito. Ma che controllo se c'è fatto tutto come deve essere fatto? Adesso, non so se è nuovamente cambiato, adesso si è come prima. Sì, adesso l'altro apparato, un attimino, che ci riprovo bene. Dunque, allora, iniziamo dalle cose basi. Questa è una radio. Mi ha detto che la radio è bassa. Sì, perché il segnale è meno di 3, guarda, segnale 2, 2 e mezzo. La radio è, non dico mezza QRM, ma quasi. Invece con l'altro apparato ne arrivi 9 più 10, se non erro. Ok. Sì, vabbè, questa è un'antenna, anche se è enorme, però è un effetto qua, quindi è normale. Aspetta che passo su questo con l'antenna che c'era là. Ho capito che vuoi cambiare qualcosa, perché ti ascolto proprio a malapena, Vedo comunque, ti aspetto, fai questo cambiamento. Prova. Com'è ora? Adesso c'è un segnalone, oltre 9.15. Infatti adesso sento anche fuori perché stanno chiamando, devono essere spagnoli. E la radio com'è? Va bene? Bassa o regolare? No, va bene, una buona radio, non è amplificata, niente di senza fronte, dai, una buona radio. Sì, è ottimo. In Catonasse io sono fuori Sassari, zona, diciamo, in linea d'aria a pochi chilometri da Monteo. E io sono a Sacro Cuore. Quindi va bene. Va benino. Quanto sto andando? Non lo vedo, neanche quello. Come si dice? Che una palla. No, caro, pochissimo. Siccome questo non c'ha niente, c'ha solo una strisciolina che indica le cose e basta, quindi no, è anche difficile capire se con la potenza che stai uscendo. No, è buono, il segnale è buono, quindi conta che io sono anche coperto verso di te, perché ho un'antenna che diciamo che coperta dal palazzo verso Monte Oro. Io ce l'ho al primo piano, però il palazzo è più alto della mia antenna. Senti questi sotto, gli spagnoli? No, negativo. Dovrei metterla sul tetto per sentire qualcosa. A meno che non siano forti. C'è Billotti. Ma sì. Ogni tanto rientro, no? Scusate l'irruzione, cosa è successo? Un miracolo, l'ho acceso per sbaglio, per caso. Ecco, io stavo provando un alimentatore, uno switch, in questi piccolissimi, e invece vedo che lo pilota benissimo, anche questo che spara 20 watt quasi, anzi 20 watt, e lo pilota benissimo, ed è quanto due pacchetti di sigarette, dai, diciamo. L'altro chi è? Gianfranco? Non ho avuto modo nemmeno di sentire chi è l'altro interlocutore. Come ha aperto lo squelch? Il volume, ho sentito voci. Sì, ciao Marco. Dato che ti sente, ma anch'io stiamo facendo la stessa cosa, a quanto pare. Sentiamo di accendere, girare, io a volte l'ho tenuto anche ore in stand-by, tanto accensione più, accensione meno, però proprio tutto tace, no? Come diceva quello. Qui a dire il vero, io ho acceso circa 10 minuti fa, 5, no? Per premere la portante, per vedere se l'antenna era ancora integra. E in base allo smitter vedo che è integra. No, non riesce il vento a buttarla giù. Ancora purtroppo non riesce a buttarla giù. Capito? Così la scusa di togliene tutto. Sveglia. Vabbè, ben sentiti, dai, io mi sto scaldando una pizza surgelata peraltro e rimango all'ascolto, dai, buona serata, ciao. No, aspetta Marco, perché questa curiosità ce l'avevi tu. Ce l'avevi tu delle sapere. Ma perché sbaraccare tutto, speriamo che si rompa, eccetera. Insomma, soprattutto adesso che inizia il maltempo, magari è un passatempo, cosa ti ha fatto? Ehi, vabbè Gianfra, però non ne ha più voglia nessuno, io sono il primo, io sto cenendo una volta ogni 1000 anni, più che altro per vedere se l'antenna ancora connette, no? Se il vento rovina qualcosa, però non ho voglia più di stare... Mi dedico ad altro, mi sto avvelenando sempre con il computer, roba, casini, aggiornamenti, e poi gli aggiornamenti di Windows 10 introducono più bug di quanti ne risolvano, lasciamo perdere. Sì, non me lo dire a me, per me la radio comunque è sempre una cosa positiva, non come i cellulari, per carità, ci hanno rovinato l'esistenza questi impiegati veramente. Mannaggia a loro, potevano rimanere quelli da analogici a nostra, ma che ascolta. Avanti la foglia, c'hai l'Alzheimer, che scherzi fa, l'altro collega con cui abbiamo iniziato dal Sacro Cuore, adesso non mi viene. Vabbè, hai capito. Sì, ma pure fare il peccato alla prima, Franco. quindi me lo devo ricordare perché io sono Gianni, tu sei Franco, quindi non c'è scappare. Gianni, Gianfranco. No, anch'io intanto accendevo, non c'era mai nessuno, ultimamente neanche per preparazione, non so se anche voi avete questo QRM altissimo nelle bande laterali, o se è il mio smitter che sta impazzendo. No, vada matti, guarda, non è possibile, per una volta che riesco a parlare con qualcuno, qua mi pare che stia arrivando il temporale, c'è stato un bel tuono adesso, non è possibile, guarda, è una cosa da sfigarti. Ti crea problemi il temporale? Hai paura per le antenne? No, per le antenne no, se rimane lontano no, se rimane vicino inizia a essere un problema, perché insomma questo c'ha 4 giorni l'apparato, anche se è corazzato, cioè più robusto, in un fuoriserie quasi, però insomma se mi prende qualcosa, qualche scarica, mi dispiace, ecco. In più c'è anche acceso l'altro, che insomma speriamo bene. Allora, io qua non sento niente, neanche a livello di apparato non sento scariche ancora, vediamo un po', o anche se ho il filtro inserito, vabbè. Marco, tu hai sentito niente? Perché il cielo si sta mettendo male. Ancora non pervenuta. Vabbè, bisogna aspettare un po'. Io pochi minuti fa, un minuto fa all'incirca, qua è passato anche il Canadair. Sta andando verso la parte, verso Sassari, e poi ha tirato dritto, non so se stia andando a sud. Secondo me sta andando a sud-est, per essere esatti. Però non so se anche oggi è come ieri, speriamo di no. Avete sentito, anzi avete visto il danno che ha fatto lì a Vorea, a Mosa, mamma mia. Per forza, non c'è nessuno, sono 4 gatti oramai, tutti vecchietti, nell'antincendio, cosa fai? Non prendono gente giovane e agile, è un disastro, ma è un grande disastro, sta storia, contro la gente che cerca lavoro. Marco, ti volevo chiedere, tu che conosci meglio la mia trasmissione, com'è la radio? Perché non sto usando il microfono originale suo, ma uno dei soliti applicati, è bassa, normale, tranquilla. Normale, né troppo bassa né troppo alta, anzi un po' per te devo alzare un po' più il volume, Franco già è bello teccio di radio. Ecco, guarda, mi sono avvicinato, così ha cambiato qualcosa? Sì, più forte, meno piacevole all'orecchio magari, un po' più amicocico parlarci così, forse. Franco, cosa ti sembra? Anch'io confermo, forse è avvicinato troppo, una via di mezzo prova. Ecco, vediamo così, 1, 2, 3, test, prova, anzi faccio anche, se ci vedo, faccio anche un'altra prova, non so se funziona in trasmissione, adesso è bassa, ho abbassato la potenza di, credo di aver abbassato la potenza. Sì, è abbassata la potenza, anche la radio di conseguenza è scesa. Per me va bene come stavi parlando prima, eh. Ok, in compenso ci sono gli spagnoli, arrivano benissimo. Vediamo un po', M, ecco, guarda adesso, adesso è un po' più brillante sicuramente. Sì, sì, il segnale è quasi sul più adesso. La radio non è cambiata, immagino. No, la radio è sempre buona, è buona. Sì, ok, questo non ha regolazioni, è per quello che è un po' difficile, lo potrei regolare il microfono sono la tavola da sotto, però poi non so come va la questione. Qual è uno di quegli apparati belli, quelli che piacciono a te? Sì, esatto, esatto, infatti è fuori, lo chiamano, non mi viene, insomma, non è amatoriale, è commerciale. Eia, commerciale per non dire, mille. Sì, anche a nome mille. Eia, lo puoi immergere nella vasca e modulare dalla vasca. Se hai guarnizioni buone puoi fare anche quello. Piuttosto, Gianfranco, una curiosità, siccome leggo ogni tanto portatili PMR, non PMR, no, e certi sono solo antipioggia, certi sono addirittura proprio waterproof, qual è quella specifica 1000, la più alta, proprio per cui l'apparato si può immergere proprio in acqua, può cadere in acqua e non succede niente? Guarda, la specifica numerica particolare non la ricordo perché... Scusa un attimo, ma cosa sta succedendo qua? È arrivata la pioggia, così, come se abbiamo aperto il rubinetto. Pioggia forte, speriamo che non sia grandine. Dunque, tutti gli apparati che ho io, a parte due, sono tutti immergibili per un paio d'ore sott'acqua a 10 metri, credo. Dicono 10 metri per stare sul tranquillo, poi possono magari stare anche a 20. Questo non lo so, questo è specifico in base, quindi è colorato normalmente per le vibrazioni. Quindi non saprei darti proprio il numeretto esatto della classifica 1000 per l'immersione. Aspetta, forse sto sbagliando io, Gianfranco, scusa. Ho preso una pagina a caso di FLECO elettronica, no, io vedevo questo numero che non vuol dire 1000, questo IP57, quelle che leggevo, IP55, più vabbè, ci sono anche norme 1810 C/D, un po' di roba che è. Non ne so niente di quello, dai. Ma come ci va il P67 che resiste sia a polvere che a acqua, non fa del genere, dai. Sì, esatto, c'è anche quella per la polvere, quindi bisogna vedere a cosa si riferisce. Su questo che sto usando c'era scritto vibrazione, eccetera, eccetera, perché sono detto che dove sono precisi quelli 1000, cioè lo mettono, che ne so, per un'ora dentro la lavatrice e poi lo tolgono. Se funziona vuol dire che era passato. Interessante, vabbè. Immaginati, militare in missione, mezzo fango, polvere, sabbia, pioggia torrenziale, se avesse un normale apparato portatile lì agganciato al corpetto. Se andasse in tilt per due gocce di pioggia sarebbe più che grave. Sì, la stessa cosa è per questo, questo è... Anzi, figati, se c'è qualcuno all'ascolto se interessa, su questo mi hanno dato anche l'antenna veicolare, che se la metti praticamente non puoi circolare, perché c'è solo il basamento più grosso di una mano a pugno chiuso, quindi ti rovineresti la macchina. E questo è utilizzato dall'ONU e da quelle organizzazioni lì. Come l'altro che c'è, ne ho due. L'altro è proprio invece più verso forzante militare quasi, però non c'hanno niente, cioè io vi sento in maniera eccellente, sento in maniera eccellente anche gli spagnoli che sono sotto, nonostante la pioggia. Eppure non c'ha niente di quello che c'hanno quelli amatoriali, tanti tastini, c'ha solo due manopole, una del volume, una dei canali e una dello squelch, basta, non c'ha niente, tutto l'altro è una tastiera con varie funzioni e basta. Sì, per parlare in M27 ce n'è d'avanzo, da voglia. Sì, sicuramente. sicuramente, ma anche su dalle altre parti, e questo è c'ha tutto, non c'è interruzioni. Solo che una penitenza gira dalla manopolina, tutto lì. Avanti Franco. Ma è a sintonia continua, no? Sì, una cosa, solo che a posto di essere leggera come quella degli apparati amatoriali, no, che gira la rotella, questo è a scatti, tipo i canali di un baracchino, fa ta ta ta ta ta e cambiano i vari step. Oh cazzo, sento io il bruttato. No, ma non è questo. No, ma stai dicendo bene ancora. È bello, dai, piace bene. Ma non puoi dire che tipo se si può vedere su internet magari? Sì, è tanto un apparato usato da tanti radioamatori anche. Il VOI standard, Vertex standard, VX-1700. Prima di standard cosa hai detto? VX Venezia X-Ray. No, la sigla l'ho presa, ma prima di standard hai detto un'altra cosa. Ho detto VX-1700, prima però hai detto un'altra cosa. Vertex con la V iniziale, Vertex. Ne avete parlato in due, però Vertex. Confermo. Ok, grazie. Vado a prendere il cellulare, non lo sguardo, dai. Ah, bellino però, Gianfra, io credevo fosse di quelli verde oliva, quelli ex carro armato. Molto bellino. Caspita, aspetta che lo ingrandisco. Metto una foto in HD. In versione base, ripeto. Ha già smesso. Ha fatto una passione e ha smesso. Ne capisce, bravo. Ecco qua, sì, bellino, c'ha il display, sembra un Yaesu quasi, addirittura qua lo ritraggono con un microfono Yaesu montato, l'MH31. Ma sta salendo anche la popolazione qua. Sì, esatto, solo che io ci ho collegato uno di quelli da tavolo per comodità. Mamma mia, questi spagnoli, ho messo lo squadro, ci fanno sentire, sta salendo la propagazione pure. E questo è un FM, quindi io con questo neanche lo posso sentire, però perché loro diciamo non la utilizzano l'FM, non le cose. Eia, Santiago 8 arriva, qua di più non. Cioè sei da me 8, da te sarà 9 più. Sì, ci sono anche video, poi mi riguardo con calma. Carino, mi aspettavo una cosa tipo PRC, quelli dell'anno dell'attacco. Però questo non lo prendere come certo, però è chiarissimo. Non so se sia nel FM in banda laterale. In FM mi lo copio meglio. È arrivato 9 più 5 qua, per un attimo, lo sentivo sotto di te. Si sente? Questo era un tuono. E infatti quando comincio a sentire tuoni qua stacco. Eccolo, è arrivato. Che palle, vabbè. Vai Fra, dai che sto smascellando qua. Sì, sto guardando l'apparato, ma è questo che c'è pacificato, dai, è moderno, già sembrerebbe moderno. Eh sì, mica è roba vecchia, sono tutti moderni, a parte uno che è sempre che proprio militare che c'ho. Mamma, aspetta un attimo che sta passando l'elicottero qua. No, carino, non capisco le dimensioni perché non vedo, non deve essere neanche tanto grande, è vero, così è Marco? Sì, non è tanto grande. Adesso vabbè, ho tolto la foto, però vicino c'è, nella mia foto, un MH31, no? Microfono da palmo della Yaesu. Non pare che la marca sia tutt'uno, sbaglio, Vertex Yaesu, boh. Ed è compatto, potrebbe essere largo come il tuo, come un 3009, come un Pluto. forse qualcosa in meno anche me. Sì, forse qualcosa in meno in larghezza e qualcosa in più in altezza, direi. Sì, sì, potrebbe essere. Beh, bellino. No, siccome Gianfranco ne ha tanti, ma c'è anche roba. Roba un po' più proprio verde oliva, no? Roba particolare, però beh, questo è abbastanza attuale. Display LCD, eccetera. Bene. E adesso forse ci sono associati anche altri gruppi sotto, oltre gli spagnoli. E ti stavo dicendo che, però lì, tra l'altro non costa neanche molto, per dire la verità. Cioè ha un prezzo anche inferiore a quelli amatoriali, quindi. Ma è tuttora in produzione oppure un modello di fuori produzione, diciamo? Mamma mia, quanto arriva forte quest'anno. No, è in produzione in 20 anni, quindi in produzione. Io l'ho preso qui, l'ho preso in Inghilterra, da una città. Devo dire che sono eccezionali, veramente, molto molto precisi, numerosi. E c'è la sfida, questo è un stock intero di questi apparati. Evidentemente le hanno fatto qualche contratto e poi si sono tirati indietro e sono rimasti in magazzino gli apparati nuovi, e sai a volte come capitano. Quindi allora hanno più potuto venderli su eBay, perché se ti tieni in magazzino sono sulle pezzi, no? Che succede? Come sta mangiando, sicuramente. Io sto sempre mangiando, poco ma spesso. Credo di avere ormai lo stomaco tipo ruminanti a camere, no? Volevo chiedere, come frequenza cosa copre? Beh, la frequenza tipica anche di quelli amatoriali, in recezione 0,30, in trasmissione 1,630. Caspita. No, molto bello, complimenti. Sì, infatti l'unica foto che non avevo provato era qua, giusto in AM, perché in AM la usano solo in 27. Sto per vedere se andava. Mi andava a trovare, ma hanno detto che va bene. Quindi va bene così. È un bell'apparecchietto, anche molto molto robusto, è fatto per reggere la trasmissione in telex, quelle cose lì, è in digitale, quindi va bene. Invece come potenza, come watt, da quanto va, da pochi a quanto? Ma questo è regolabile, c'ha tre step credo, sto sbagliando, sono 5, quant'era? 5, poi 25 e 125 dovrebbe essere, però in AM ovviamente soprattutto sugli alti è proprio bassa, è quanto, non dico un baracchino ma quasi, perché non è, credo che per legge non possono uscire più di 25 watt in AM, quindi in potenza bassa sarà 2 watt, 3 watt. Spinge magari in altre frequenze là. Beh sì, in banda laterale in CV la potenza è un mostriciattolo, realmente la vedi sugli strumenti, non è come quelli amatoriali che ti dicono 100 watt di potenza e poi te ne trovi 50 modulati. No, va bene, va bene. Stavo dicendo, Marco, la stessa ditta che lo produce dalla Iesu? Come, Franco, dimmi. Tu poc'anzi hai detto che forse lo produce la Iesu? No, volevo chiedere a Gianfranco, Iesu, cioè Vertex Standard, Iesu, sono unite per caso? Perché mi era sembrato sul catalogo di capire una cosa del genere, e poi a vederlo sembra uno Iesu, uguale, o Gianfra, vai. Sì, diciamo che sono, la fabbrica è la stessa, infatti questo è stato chiamato in Japan, però cambia la clientela, ecco, questo è fatto per il professionale, quindi per la clientela civile, la Yaesu fa roba per i radioamatori e basta, la Webber è la branca specializzata nel commerciale e nel militare. Eia. Bene, bene. Spero che c'è un messaggio. Sì, vediamo quanto sta sorprendendo questo, perché non già si riprende. E niente, sta riprendendo, forse è arrivata l'acqua. Non è proprio costante, però c'è. Guarda anche qua che sta piovendo. No, negativo, qua è ancora tutto asciutto. Cioè, guarda come sta cambiando il tempo, cioè qua adesso sta piovendo abbastanza forte e da te non sta facendo niente, ci sono i microclimi, si sono creati, ma cosa pazzesca veramente. Ma lei sta arrivando dalla parte tua verso qua, sicuramente ti ha già beccato, sono venti da sud probabile. Sentito la scarica anche qua del fulmine, però deve essere lontano. C'è il coso lì, che si vede verso il basso, sembrerebbe delle piccole schiarite, ma non ci conterei molto. Qua ancora non piove. Anche lui. Tu sei ancora più su di me, Marco, quindi io mi trovo in mezzo tra voi due. Sì, ma si sta avvicinando, d'altronde il meteo dei TG5 aveva detto in Sardegna fine serata o nottata temporali. Vabbè, d'altronde se non piove in questa stagione, se non comincia a piovere, a riempire i bacini siamo sempre alle solite, dai. Ieri figurati stavo cercando delle Domus de Vianas lì vicino Alghero, un po' prima di Alghero, tra Alghero e come si chiama il paese, non mi viene, tra Alghero almeno, dai, più o meno, tutti figari praticamente, e sembravamo a Ferragosto, tutto secco, giallo, guarda, impressionante. Purtroppo qua non abbiamo, tipo in Liguria, cioè non abbiamo catene montuose che fanno da schermo alle nuvole, un po' che le rallentano e fanno addensare, qua circondati dal mare la nuvola passa e va. Invece hai visto i casini in Liguria, manco a dirlo, a Milano lo stesso, mezzo nubifragio, a chi troppo a chi niente. E noi abbiamo un po' l'acustica che ci influenza un po', qui abbiamo montagne alte di fronte. Poi, mi pare a Genova, cioè quando succede che piove forte, lì diventa un vaionte, mi dà dalla parte alta verso il basso va. È impressionante vedere le cascate, le fiumane nelle vie della città, per carità. È brutto. Un po' Oggi è stata colpita qualche anno fa, anche lì si è allagato tutto. Anche una volta mi ricordo, ho visto passare per le strade, anche Materassi ho visto passare. Addirittura un negozio che andava, era quasi giù verso il porto, aveva due ingressi, ha aperto le due porte, poi l'acqua entrava da una parte e usciva dall'altra. Le cose più impressionanti sono quelle parti Medio Oriente, Asia, India, ogni tanto vedi l'acqua fino ai tetti e quelli che vanno in giro a portare acqua o alimentari a soccorrere con quelle barchette che hanno loro in Asia, tipo quelle gondolette, come si chiamano? Non gondolette, non mi viene il nome. Pagode, come le vuoi chiamare? Pagode, una cosa del genere, dai. Canoe, quello che hanno loro. Io ho visto qualcosa ai Caraibi, però più che altro era la coda di qualche uragano. Però dopo un po' è uscito il sole. Piogge forti, sì, durano qualche ora e poi va via e arriva il sole. Però torrenziali, Aspetta, peraltro credo di aver detto una fresca, no, le pagode sono quelle, cioè quei tetti cinesi ondulati e lati, no, a sezione quadrata, non so, avranno nome in base al paese, Thailandia, Cina, ognuno se le chiama, avranno dei nomi quelle barchette, no, che vedi anche in Vietnam, nei canali. si trasportano anche frutta, verdura, topi. Soprattutto topi. Io dico che se da quelle barchette cadi in quei canali tipo Thailandia, cosa, muori avvelenato, oppure loro sono, come dire, immunizzati, perché sai, generazioni e generazioni di, sono abituati, è come l'italiano, se va lì gli fa male tutto, gli viene mal di pancia, vomito, si piglia tutte le febbri emorragiche, tutto quanto. Stessa cosa per l'Africa, noi siamo abituati alle banalità che abbiamo qua da noi, ma in altri posti devi stare molto attento, devi fare i vaccini. Ui. Ho provato a aumentare un pochino il, come si chiama lì, il potenziometro 318, non è cambiato niente, vero? Ma buona, è buona la radio, è più buona di quando sono appena entrato, che era più bassa comunque, cioè io appena sono entrato per te ho dovuto alzare un po', Gianfranco già è bello pompato invece. Gianfranco, scusa, Franco. Sì, sì, ho capito. No, anche per me va bene, sta facendo bene. Comunque, si trova dagli spagnoli, sentivo anch'io, anche sotto di voi li sentivo. E quindi stanno aumentando. Adesso sono passato al suo originale, da Palmo, quello che hai visto lì nella foto. Risulta più basso, immagino. Allora, ti dico la parola in inglese, muffled è un po' ovattato, soffocata un po' la radio, cos'è l'MH31? Lo stesso che aveva lo Yaesu 857, e mi ricorda come uscivo io infatti, vai Franco, scusa. Sì, anche secondo me è leggermente più pacata come radio, come dici tu, ovattata. Probabilmente c'ha dentro i soliti cosi per proteggerlo, sai, ci mettono quei filtrini che tappano il microfono. Poi i giapponesi sono tremendi perché hanno tutta una voce strana loro, no? Quindi tendono a variare gli acuti un po'. Vabbè, comunque l'importante è che quella bene, adesso ho rimesso quello da base, quello da tavola. Oh Gianfra, io mi ricordo sull'857 l'MH31 andava veramente, veramente male, a due posizioni, no? Pur mettendolo nella posizione migliore era cupissimo, brutto. Allora ho fatto quella modifica che un radioamatore aveva suggerito sul suo blog. Dove cambiare un condensatore e una resistenza. Ha cambiato tantissimo, soprattutto nella posizione buona, che non ricordo se era la 1 o la 2, non mi ricordo. Però anche lì dovevi stare sempre a una certa distanza dal mic, tipo tre dita esatte. Se parlavi più vicino era troppo forte, se parlavi più lontano era troppo basso. Però almeno era capibile. Invece con il microfono di serie nell'857 era ben poco capibile, era cupissima, proprio brutta. In FM invece no, in FM banda stellare era buona. E comunque ha migliorato ulteriormente con la modifica. Sì, ma questi ovviamente è meglio non toccarli perché sono un po' particolari. Sotto questo c'è anche un tasto, però non so a cosa serva perché non ne capisco l'utilizzo. Aspetta, ho alzato il microfono, sentire il rumore. C'è FM SSB, adesso provo a commutare da sotto il microfono. Ecco, vediamo un po'. C'è stato un cambiamento, secondo me non serve un tubo a fare questo interruttorino che c'è sotto. Adesso è in posizione SSB, adesso lo metto in posizione FM, 1, 2, 3, non fa niente, vero? Ma orecchio io non mi sembra di aver sentito variazioni, boh. Mi è sembrato quando è cambiato che forse rimbombasse un po' di più, ma a livello proprio impercettibile. Prova nuovamente, fai due passaggi. Sì, allora, questo è in posizione FM, metto in posizione SSB, credo, aspetta. No, ho sbagliato tutto, aspetta, ripeto. Allora questa è in posizione come era prima, adesso lo metto nell'altra posizione che è SSB, ecco, adesso è in posizione SSB, 1, 2, 3, distanza la stessa, adesso rimetto in posizione FM, 1, 2, 3, prova. meglio lasciarlo così in FM? Per me sì, quando hai provato l'SSB era leggermente diversa, peggiorava un po' la radio. Confermi, Marco? Come più, appena più cupa mi è sembrata. Oh, qua sta cominciando a fischiare forte il baracchino, un rumoraccio tremendo di quando c'è elettricità statica in aria. Mi qua adesso ho smesso di piovere, figurati. E allora sta venendo qua me. Allora aspetta, ho trovato il sito comunque, qua lo chiamava Tone, nell'MH31, Tone 1 e 2, adesso non mi ricordo quale andava bene, comunque il sito da cui avevo preso spunto era quello di IZ0HCC, IZ0HCC, sì, era un condensatore e una resistenza, però vedi, ho preferito toccare quello, che non toccare quei delicati parametri che c'aveva lo IAESU. No, c'erano dei parametri in un'area protetta del sistema operativo, chiamiamolo così, del firmware. E lì non ho voluto toccare niente per non far danno. Infatti se non si conoscono bene quello che tocchi, poi c'è un casotto. E qua come bastano? Faccio una commutazione per sapere se sparisco, se rimango, se ne sento un tubo, vediamo un po'. No, non me la fa fare, aspetta, mollo un attimo la postante. Si sente un... sembra un flusso d'atti, sembra, un fruscio. No, questi hanno contatti commerciali, c'è stata la funzione anche di codifica, capito? Quindi, però non c'è la scheda, ovviamente perché non si può mettere attribuita a metodo, e quindi lo fa. Perché c'è una scritta, dice privacy, e poi la studia. Facciamo una prova in USB, giusto per, anche se questo è tipo canali e quindi non posso neanche fare, come si dice, questo di quelli che fanno a colpo sicuro, quindi se siete appena fuori, non, io non sento a voi e probabilmente voi non sentite a me. Facciamo una prova velocissima. Proviamo. USB adesso, da questo momento USB. Piove, poco ma piove. Auli, uli. Rieccoci. Ti dicevo, non si può, cioè il volendo si può, ovviamente c'è un testo programmabile per fare da fare, però siccome c'è anche l'ALE, non so se lo sai cos'è l'ALE, è praticamente una ricerca automatica dalla frequenza più idonea alla comunicazione. Questo se ti dice che ne so 27075.0 e 27075.0, cioè non c'ha derive, capito, proprio perché è un apparato particolare. Adesso si sente di nuovo la ventola, presumo. Leggermente, non dà fastidio, invece in banda era fortissima. Poi si sentiva come la carica andava e cresceva il rumore. Ma è possibile, sicuramente col suono lo fa, forse ci vuole qualche tocco anche alla schermatura, magari sta entrando da lì, anche perché è collegato il computer e la trasmissione dati, e anche quello forse contribuisce un po' a creare questo effetto. Comunque è così, capito? Quindi quando lui va in banda è come che vada su un canale proprio stabile e fermo, perché se no non lo potrebbero usare, non tutti in macchina o in barca hanno la possibilità di fare la sintonia fine, quindi deve essere perfetto proprio da come cambi, deve essere lì e basta. Gli apparecchi professionali sono belli, porca miseria. Baracchini, vabbè, per 27 ce n'è d'avanzo, dai. Ma io lo dico sempre, il problema non sono gli apparati, sono il fatto che non c'è più nessuno, con questi impriati malefici di WhatsApp, Facebook e tutte quelle cose, vedi, cioè mi fanno ridere, no? Questi qua vogliono... dicono di non mettere il post, no, di non mettere il post perché gli anziani non riescono a usarlo, poi da vedere di lì dove sono le panchine, dal medico facendo la fila, le post sono attaccati mattina e sera con questo cavolo di telefonino su Facebook, su WhatsApp e chi ne ha più ne metta, una cosa micidiale. Allora, poi rilancio Franco. Guarda, l'altro giorno sono andato in tram, vabbè, all'ufficio farmacia, perché tanto posto in macchina non ne trovi, un macello, poi a rientrare è anche peggio. Vabbè, all'andata, persone di vari sessi, di varie età, no? Dalle più giovani alle più anziane, tutti chattando, perché li vedi che sanno TTT con i tasti, no? Cioè non stanno navigando, quelle chat. A rientro, scolaresca, peggio ancora, cioè ormai sono incollati allo smartphone, io ero l'unico che non ce l'aveva davanti agli occhi, forse fiero anche un po'. Ora sembra di vedere quelle puntate di Black Mirror, quel telefilm inquietante sulla tecnologia, e tuttora è già così, siamo degli zombie con gli occhi piantati sullo smartphone per chattare, non per ricerca, per chattare. Sì, sì, confermo. A volte anche in ristorante, tu vedi, sono, non so, padre, madre e figli, ognuno per i cavoli suoi, con il suo telefonino che chissà cosa cavolo fa. Ma anche in macchina, conta che ci sono sacche di sanzioni, anche pesanti, eppure io mi accorgo che a Sassari sono tutti col telefono in funzione, in macchina, alla guida. Sì, è una cosa da non credere, guarda, pensa che adesso credo ci sia l'immediato ritiro della patente, cioè, secondo il codice della strada dovrebbe essere l'immediato ritiro, eppure non le frega niente a nessuno, ci passano pure, ne ho incrociato uno che era al telefono, non riusciva neanche a fare manovra, per lui il telefono l'ha mollato, preferiva sbattersi e mollare il telefono, però tu un'anziana. Se devi dire qualcosa ti rispondo anche male. L'altro giorno in via dalle parti di Corso Trinità, no, già la strada lì è pavè, un po' l'onfia, no? Uno con uno scooterino aveva giustamente a mano destra sul gas, no? E la mano sinistra sull'orecchio destro, infilando lo smartphone tra casco e orecchio e parlando così, guidando così. Metti che ne debba schivare un passante, succede qualcosa, però lo vedi rotolare a terra, allucinante. No, io invece proprio col telefonino incastrato proprio dentro il casco, che rimaneva fermo tipo mila voce. Beh, se aveva le mani libere di guidare è anche buono. E ogni tanto gli faccio il gesto, oh, invece di telefonare rispetta lo stop. Vabbè. Si stava così bene quando c'era solo il numero fisso a casa. Quando chiamava, pronto c'è Marco, è uscito, quando torna non si sa. Bello, niente rottura di già avete capito. Adesso sembra che uno debba sempre essere reperibile. Vabbè. Posso capire chi lavora, chi fa lavori importanti, per cui deve essere sempre reperibile, ma infatti io certe volte si spegne, c'è il tastino apposito e uno non è schiavo, lo spegne ed è raggiungibile. Bello, la pace ritrovata. Guarda. No, io quando ho l'aziendale, vabbè, sono costretto a usarlo, se no i numeri aziendali, cioè nel mio telefono privato, sono tutti bloccati, cioè non mi possono contattare. Io stavo pensando invece di comprarmi uno di quegli attrezzi, e quando li vedo premere il pulsante e avviare il telefono, sarebbe micidiale, ne puoi vedere gente che magari si sbattono pure poi. E cioè Gianfranco, non ne ho capito bene che attrezzo. Camera, le blocchi la frequenza radio, per un paio di secondi la comunicazione cade. I jammer, i disturbatori di frequenze sarebbe bello, con l'antenino multiplo montato sulla base magnetica, no? E ci hanno quelle frequenze, no? Adesso non mi ricordo, 800, 900, 1800. E comunque dovrebbero fare un apparecchio di trasmittente, no? Che quando si fa una cosa del genere, premendo lo importi automaticamente come canale prioritario il telefonino, e puoi dire brutto stronzo, guarda a guidare. Vabbè, io non potendo avere simili mezzi, sai che il baracchino ha il PA, no, quando avevo il baracchino in macchina. E avevo messo un altoparlante nel vano motore, no? Orientato verso il basso in modo che fuoriesca il suono. E certe volte se qualcuno magari bruciava la rotatoria, qualche, bastava spostare la levetta, qualche urlo glielo potevi tirare. Però non aveva potenza, non era molto forte. Figurati, il baracchino ci avrà 2-3 watt in strada, non li senti, magari quello al vetro chiuso poi. Avete dovuto montare un bel amplificatore, c'è un bel altoparlante di velatron, ma quelli che usavano i vecchi pescivendoli e fruttivendoli. Ho fatto anche quello dalla macchina, donne è arrivato l'arottino, portate il pisello dei vostri mariti, gli rifacciamo la punta. Che poi l'altoparlante sai qual è? Quello Midland, quello impermeabile, quello a cono, c'ha un audio bruttissimo, non è fedele, poi c'ha pochissimi watt, tiene. Non puoi manco mettere l'amplificatore perché lo brucierebbe. Ed è l'unico antipioggia, ecco perché avevo messo quello. Dove è bello, diciamo, quello è tipo megafono, proprio piccolino, sembra una sirena, sembra, dai. È grigio. Sì, grigio nerastro, tipo grafite che io ricordi, adesso vabbè bianco da Lugubaru, ma lo tolgo pure adesso, non ci sta a fare niente. Sì, dovrei averlo, la tappeta per attaccarmi, una tappeta metallica, se non vado errato. Dovrei averlo in qualche scaffale qui. Cioè anche io volevo dire che dici tu, ma non vale niente, c'è cioè una potenza ridicola, va poco proprio secondo cosa ci metti. Ma infatti la parte per le sirene ad esempio, che sono tutte fatte con altoparlanti oramai, quelle costano, gli altoparlanti costano uno sproposito, stiamo parlando di cifre di 100 euro l'uno, quindi anche una sirena costa anche 250-300 euro. Ma cosa sono quelli RCF? Esiste ancora l'RCF? Io mi ricordo negli anni 70, fine 70, inizio 80, no? Quando c'erano i comizi in piazza, quelle trombe lì erano tutte RCF. Non so se esista più me, Gianfra. Probabilmente sì, però è roba, capito, per usi proprio specifici. Ma lo sono quelle sirene che a ben guardare, anche quelle che hanno i motociclisti, no? Che si vedono meglio di tutte, sono abbastanza piccole, però hanno un costo, non ricordo esattamente quanti dB sviluppano, però se guardi il prezzo è pazzesco. Non sono altro che altoparlanti che devono reggere quella potenza e anche quella frequenza, perché poi le frequenze non è che, anzi quelle che sono in macchina, adesso che me lo ricordo, sono anche PA, no? Commuti, la sirena passa in PA, quindi puoi anche parlare nel caso ci siano degli avvisi da dare, scontate tutto questo, arrivando il ciclone, la tromba d'aria oppure l'allagamento. Via. Ho trovato il modello altoparlante Midland EH800. Sì, è come una specie di cono bombato dentro. È ridicolo, è un giocattolo. Tanto me, l'unico che ci passava lì c'erano 10 centimetri quadri, tanto per piazzarlo, eccetera. Ho sentito un tuono, quindi sta arrivando anche qua sicuramente. Sì, comunque la RCF non esiste ancora, perché produce anche casse altoparlanti per concerti o roba così, per fare serate, quei cavalletti che vedi, tipo quelli che fanno karaoke, cose del genere, dai, esiste ancora comunque. Quando invece delle sirene era la sonora, che faceva quella dei vigili del fuoco, quelle meccaniche che giravano, no? Quelle rosse, quella era la sonora, quelle già ne facevano di casotto. Oppure anche le trombe in anni successivi, quelle da noi adesso hanno sostituito le campane dei passaggi a livello, le vecchie, quelle meccaniche, portavano martello, con quelle elettroniche, ma quindi non ti puoi neanche avvicinare, sono potentissime. Perché sprigionano watt, solo che costano carissime. Ma non costa, l'amplificatore è una cretinata, lo puoi anche costruire. Il problema è proprio l'altoparlante, che dovendo reggere quelle potenze, dovendo essere così piccolo, costa caro. Non solo potenza, ma la frequenza è proprio fatta apposta per sentirla anche con la radio accesa in macchina. Siccome le vecchie, quelle a martelletto, cosa faceva la gente, specialmente quelli che abitavano in zona? Ci infilavano di tutto dentro, pezzi di legno, pezzi di canna, qualcosa, per non fare rumore, no? Perché i treni ci sono anche la mattina presto, la notte sul tardi, e loro cercavano di annientarle in questa maniera qua. Infatti, sì, ma incoscienti, fate fuori. Poi c'è quello che non ha una cosa a Marco, adesso così, parlando di queste cose, mi è venuto in mente gli altoparlanti delle chiese, no? E volevo chiedere delle campane, e volevo chiedere a Marco, poi quelle trasmissioni che ti avevo detto, le sentite le messe sui 40 spiccioli? No Gianfra, poi quella prova non l'avevo fatta di ascoltare perché non ho voglia. Poi non so se lo scanner, no, mi pare che l'attuale, allora sì, questo qui a fianco ci arriva e dovrei andare magari in zona alta, tipo, come si chiama lassù, porca miseria, però peccato che non ho la trasmittente per mandare il bestemmione sovramodulando la portante della chiesa. Monte Bianchino. No, centro ecologico, cioè prima c'è il centro ecologico, poi sali ancora di più, c'è una fermata del tram, l'autobus, e c'è un campetto con la rete dove giocano i ragazzi, non so se sia un campo privato, lì è il punto più alto. Quando c'era la propagazione arrivava forte, roba veramente forte lì. Sì, lì puoi salirci anche qui da, così che adesso non puoi, no dai? Che poi mi pare che lì a fianco, proprio dalla parte opposta della fermata del tram, c'è una specie di casa cantoniera, credo, non so cosa sia, è sempre vuota, chiusa, credo sia una casa cantoniera o quantomeno qualcosa di non utilizzato. Di fronte alla capolinea lì? Sì, sì, proprio lato opposto, da marciapiede, non ce n'è marciapiede, lato opposto, dai. Sì, sì, capo, ho capito. Vabbè, però poi non è, poi mi sento Gianfranco bestemmiare sulla frequenza delle radio chiesastiche e mi tira le orecchie. No, più che altro si sentono tante vecchiette, quelle dei paesi, quelle di 100 anni, magari poi c'è sulla coscienza, le viene qualche colpo. No, già si fanno il segno della croce al massimo e passa tutto e dicono quello è il diavolo che ci tenta. Ho pensato la stessa cosa, dovresti dire sono il diavolo. Se immagini il prete sul campanile il giorno dopo attaccandone tutto. Comunque l'impianto costa un sacco di soldi per una cagata, cioè come fregare il prossimo veramente. Ascolta Gianfra, ma l'impianto trasmittente che ha la chiesa, che non credo che abbia potenze molto elevate per coprire un paesino, ma loro chiedono una licenza a Cagliari, cosa chiedono? Oppure è tutto, non si chiede nulla, come funziona? Essendo roba del Vaticano gli faranno qualche favore, no? Non gli faranno pagare la concessione, no? Poi non lo so, ma probabilmente chi glielo vende fornisce anche il servizio, come spesso succede, di burocratico, ecco. certo i costi, pensando che anche agli utenti, poi no, perché ovviamente l'utente finale avrà una radiolina, tipo quelle che usavamo una volta, per intenderci, proprio da 13, sintonizzata su quel canale, non so neanche se sia passata, e si mettono lì a ascoltare quando c'è la messa. Ovviamente è una cosa utile perché non è in condizione di andare alla messa e la vuole ascoltare, però per quello io penso ci siano anche tanti canali televisivi oramai che forse fanno anche un servizio migliore, ecco. Vabbè, quelli ascoltano la messa del proprio paesino e quindi il loro prete. Una battaglia su Radio Maria, che quella arriva veramente dappertutto, deve avere delle potenze, c'ha la potenza dall'alto proprio. No, dal retto proprio. Quella roba tipo Duga 3Mi o quell'altra porcata americana che spara microonde in aria, come si chiama? Quell'immenso campo pieno di antenne, ha una sigla particolare, Gianfra, già avrei capito. Ma tu ti riferisci all'installazione del NORAD? No, no, è una cosa che può avere effetti sul tempo, come almeno si ipotizza che serva per fare esperimenti meteorologici, riuscire a modificare il tempo in qualche... Mannaggia, lo sapevo, tutta roba da complottisti, mi capito? Se lo trovo te lo dico. Ho capito, no, sono quelle da parlare forse a lui, quei servizi lì che ci sono anche in Italia, che è una pianura per vedere lì in Adriatico, e quelle cose lì sono radar meteorologici, dovrebbero essere così. Certo non è potente come quello russo che è su quella collina che arrostisce le pecore, anche se non ci vanno a fare niente delle pecore, perché tanto non cresce niente. Allora Gianfra, HARP, HAARP, che poi vedendolo dall'alto è piccolo però, cioè piccolo, forse è più piccolo di quanto pensi, c'è tutto, c'è in storici, teoria del complotto, bla bla bla, praticamente l'acronico di high frequency, quindi high frequency, active auroral research program, non te lo traduco perché non so tradurre tutto, dai. Sono qua da mettere luce, dai, una cosa di quel genere. No, invece di quello che lo sai che anche qua mi era capitato già tantissimi anni fa che c'erano era roba dei americana, dei Marine Escorts, Signal, quelli lì. Ho sentito una trasmissione, forse in 26, totalmente criptata, roba tipica di quei signori, no? Non si capiva una mazza. Tutta così era in 26, ma una cosa indecifrabile, a prescindere dalla modulazione, MTFM, FM, SSBU, neanche a ruccio. Ah, quindi non un soffio, non un fruscio tipo pacchetti dati, come un cripto sull'audio, proprio sulla voce, sul modulato? Sì, il tipico cripto analogico, quindi era roba militare analogica che era che comunque ad alto livello, perché non si capiva neanche la fantasia lì. Mentre invece ho avuto occasione di sentire c'è anche su un sito gli apparati della Coda, che tra l'altro dovrei avere uno qua, però non di quel tipo, che costa una sparata, che praticamente ti fanno vedere la differenza tra la modulazione analogica, la modulazione digitale a basso livello, la modulazione digitale ad alto livello, quindi con più bit. Ed è una cosa mostruosa. In analogico sono arrivati a S0, praticamente tu non potevi sentire niente, sono solo il fruscio del QRM. Con la stessa radio hanno commutato su digitale ed era uno spettacolo, ma cosa non credere? Di quello ti avevo chiesto un qualcosa, ne stavate parlando mi pare tra radioamatori, no? Ma tempo fa. Molto tempo fa. e mi ricordo che dove appunto non arrivava il segnale normale, con questa cosa digitale era una cosa strepitosa, cioè dove l'analogico arrivava proprio a 6-0, quello era... E quello cosa riguardava? Che modo, che tipo di emissione, di cripto, di digitale, cosa era? No, allora, voce digitale, era specifico, voce digitale, quindi non erano comunicazioni di testo, anche se posso fare benissimo anche quello, eccetera, eccetera, era una comunicazione digitale, quindi... La differenza era praticamente tra analogico in voce e digitale in voce, ed era per pubblicizzare proprio questo sistema per i militari, con codec proprietari loro, quindi praticamente tutta roba segreta, poi ultra criptata, sono cose della fantascienza praticamente. Avanti Franco. Invece quando passano le navicelle in orbita, che anche loro mandano dei segnali, voi li ascoltate qualche volta? Ah, sì, di norma si ascolta. Guarda, ad esempio la stazione spaziale trasmetteva, cioè la sentivo chiarissima, a 145-900 spicci, 900-950, una cosa del genere, trasmettiamo sia in fax, che usciva sempre la solita immagine di questo russo in divisa, e sia in fonia, soprattutto quando c'erano gli italiani che parlavano con le scuole, no? Quando c'era Cristoforetti, quella lì. Riusciamo a bordo sempre un apparato anche amatoriale, o comunque che può andare su frequenza amatoriale, e lo utilizzano per fare questa forma di promozione, dai, dallo spazio. Però dura poco, perché lo sai che la stazione passa, poi sparisce. Mentre si sentono abbastanza di frequenza e quelli meteorologici che però sono a 137, e durano poco, senti piano piano che si avvicina quel rumorino tipico, poi diventa sempre più forte e poi piano piano cala, però spariscono giusto il tempo di un'immagine, poi spariscono perché la velocità lì che hanno questi attrezzi è da paura. Sì, sì, no, mi ricordo, poi dipende anche dall'orbita in cui si passa, a volte si passa sopra, a volte un po' più lontano, e quindi dura anche il segnale più basso. Avevo un programmino prima, l'ho fatto fuori dal telefono, stava avendo qualche problema, e ti diceva proprio gli orari e cose varie, dai, ti dava anche la traiettoria rispetto al tuo punto, dai. Io andavo a piazzare i segni miei con le antenne veicolari a ascoltarlo, e mi portavo, almeno una volta ho portato il computer e vedevi proprio, aspetta il sito non me lo ricordo, vedevi proprio la mappa e la navicella avvicinarsi, e potevi far comparire l'alone di copertura radio, cioè tu lo sentivi già che era... pare sulle coste del Portogallo, addirittura ancora in Atlantico, prima di arrivare a Portogallo riuscivi già, perché l'altitudine che hanno, figurati, e mi sceglievo proprio i passaggi quando passava quasi sopra o se non sopra la Sardegna, passaggi migliori. Avevo fatto anche i video all'epoca di Nespoli, sì, è bellino, peccato che non senti quello che dice la scuola, perché giustamente quelli sono in continente, non li puoi sentire in VHF. Poi, Gianfra, dovrebbero esserci anche comunicazioni extraveicolari quando l'astronauta esce fuori a fare manutenzione o non arriva, magari usa una roba con pochi milliwatt, niente sai. No, quelli sono comunicatori direttamente, dovrebbero essere full duplex, quindi non premono neanche il pulsante, sono apparecchi ad hoc, capito? Sono per brevissime distanze, lavoreranno parecchi giga, ma per stiamo parlando di 10-15 metri, quindi roba abbastanza piccola. E spesso poi c'è collegato anche il video lì, quindi è una cosa un po' più particolare, ecco. Tipo quelli delle commesse di Lidl, che Antonello Pomponi diceva che erano in PMR, ho detto no, quella non lo sentirai mai. Infatti avevo provato anche con lo scanner, col coso attivo, come si chiama? il close call, no, quella per cui in vicinanza becca tutti i segnali nel raggio di 8 metri. Non li sentivi, io deve essere roba con frequenze alte, mi pare che me l'avevi spiegato anche Gianfra. Dopo me lo dici all'altro passaggio, mi. Vai Fra. Sto cercando se trovo quel programma che tu usavi prima sul computer. Dai, vi ascolto. Riprendi Gianfra. Sì, sono. Quelle se non ricordo male erano. Anzi sono. Oh, non mi viene il termine. L. Vabbè, guarda, sono tipo Zello per intenderci, solo che hanno un cervellino ad hoc, praticamente oltre vanno in rete, nella rete che hanno lì o la checkpoint, possono comunicare, ci sono anche questo tipo di apparati che hanno una portata molto ridotta e servono proprio a fare quelle cose lì. Ah, quindi manco più radio, cioè alla fine roba wifi, tutta in rete, dai. No. Va bene, è quella la strada che stanno prendendo un po' tutti. Come quegli apparecchi che mi avevi fatto vedere, praticamente dentro c'era uno smartphone proprio con specifiche anche rigicate e fuori l'aspetto di radio. Cos'era? Enrico mi pare la marca. Oh, carini comunque, cioè intrigante anche perché ha l'aspetto di radio, ma che ci vuoi fare? Non è radio. Guarda, ne ho due di quelli, c'ho il veicolare e c'ho il portatile. Se devo proprio dare un giudizio, una cagazza, comprati un cellulare che è meglio, anche quelli da 50 euro che fanno svento. Oh, cioè, meglio installare il programma adatto, naturalmente roba che riguarda i radioamatori, e usare il cellulare che è quello. E quello ho visto era molto scarsino come RAM, come processore, cioè non che servano per usare un programma così di tipo Zello o simili, quello non mi ricordo il vostro, quello dei radioamatori, come si chiama? Vabbè, già hai capito. Però sai, fai gli aggiornamenti, a un certo punto sarà superato il sistema operativo, non potrà più aggiornare, non potrà aggiornare nulla. E quindi ho detto mettete almeno un hardware adeguato ai tempi. Per esempio, adesso parlando di altre cose, io ho preso queste Android box, no? Per guardare YouTube sulla TV, no? Senza stare a mettere quel cavolo di Chromecast, no? Che mi serve sempre lo smartphone come telecomando. E allora ho detto meglio una cosa esterna, no? E questa TV box partiva già, era un modello nuovo, da 4 giga di RAM e 64 in memoria. Poi più che altro avevo preso per leggere tutti i formati video con VLC, perché il mio lettore da tavolo non mi legge gli MKV, non mi legge i formati, anche quando converto qualcosa dalla telecamera, non mi legge nulla, quel lettore Philips ormai di 10 anni fa, molti codec non ce li ha, i codec moderni. E fa il suo sporco lavoro, caspita, è come un mini computer Android, ci può attaccare tastiera, ci può attaccare mouse, la TV ti fa da monitor, ci puoi chattare, tutto quello, quasi tutto quello che fa Android, perché c'ha dei limiti per via della configurazione, ho visto che c'ha dei blocchi ad arte, anche se è un operativo, non è un normale Android, ma è un Android proprio per TV box. Sì, sì, però diciamo sempre cose un po', ma vabbè, niente, io stavo cercando per farlo vedere quello che ho visto proprio di apparati che sono meravigliosi. Non mi ricordo dove hanno fatto vedere tutta questa prova di questi apparati digitali. Eia. Allora, dunque, Gianfranco sta cercando quella roba della ISS. film aveva una sigla strana, comunque ce ne sono vari, ISS Tracker c'è, e tanti altri. Ecco, spiacenti si è verificato un problema, manco aperto. Il mio aveva una specie di Y2O, una cosa del genere, vado a trovare adesso, perché io ho cancellato tutti i vecchi collegamenti dei vecchi computer, poi addirittura il computer a torre, no, quello con XP, il processore era un Athlon XP, era esattamente 2083 MHz, no, 2 giga e 83 MHz. E quando andavo a fare acquisizioni video da videocassetta mi sono accorto che non ce la faceva più, problemi continui, l'audio non in sincrono, è come se avesse avuto un azzoppamento questo computer. E l'altro giorno, guardando le gestioni risorse o cos'era, no, informazioni sul sistema, ho visto quel processore da 2 giga e 83 che era, me lo sono trovato 1 giga e 42. Come se si fosse dimezzato il processore, sicuramente una parte ha smesso di funzionare, no? O dei core, no? Non so come sia, Gianfranco. Dipende da cosa è fatto, come configurazione. Quel piccolino neanche uno io, però è Windows, e Windows è anche volendo Android, però si è lasciato per problemi di compatibilità Windows 10. Devo dire che va benissimo, fa tutto quello che fa un normale computer. E la versione è un po' più cara, perché contiene proprio Windows 10 certificato e quello professional, eccetera, eccetera. Devo dire, ce l'ho già qualche anno, uno non si può lamentare, quindi è una cosa abbastanza funzionale. Certo non puoi pretendere di fare cose eccezionali dal punto di vista della grafica, anche se si è dedicato anche, ce ne sono certi che fanno anche 4K, però insomma il suo focolato si fa a un prezzo anche di qualche centinaio di euro e si fa molto bene, devo dire. Sì, io ho preso quelli cinesi, tipo marca Big Wheel, D-Max, no, li trovi tutti su Amazon, con 49,99€, quindi 50 euro ce l'hai. È economico, c'ha un processore, mi pare, RK3318, che rispetto a quello del cellulare è molto più veloce, per esempio. Ho provato a mettere un gioco, no? Lo stesso gioco che sul cellulare va benissimo, lì c'hai stesso RAM, stessa, no, il processore no, scheda video è una misera Adreno 500 qualcosa, boh, 502, e il gioco proprio va a scatti, non ce la fa. Però ho visto che i video 4K li legge, cioè adesso ti spiego. A parte che io, adesso te la faccio breve, Gianfranco, legge i video 4K fino a 30 fps, se gliene metti uno fatto in modo professionale, scaricato da internet, non fatto da quella camera che ho io, 4K 60 fotogrammi non ce la fa, va a salti. Invece 4K effettivi 30 fps lo legge. Sì, perché dipende dalla scheda, è una questione di scheda, quindi dipende dalla capacità che ha la scheda video montata. Ad esempio a me, se sul computer ci metto su questo grande, che non ha capito, ci metto un video 4K, diventa verde, proprio si impalla tutto, quindi lo fa. Allora Franco, ce ne sono tanti di siti per la ISS, io ho beccato quello che usavo io, N di Napoli, quindi November 2 YO, November 2 Yankee, no, Hotel, no, ecco l'H, Oscar, mi portavo quello col portatile in macchina. Addirittura c'è stato un punto, Gianfra, dove era l'altezza dell'isola d'Elba o roba del genere, no? o forse giù, vabbè, c'è stato un punto dove mi è sparita, in pochi istanti è sparita la trasmissione audio, cioè mi è sparita proprio l'audio della ISS, ed è sparito per un attimo dalle mappe anche l'iconcina dell'astronavetta, come se avesse beccato proprio un punto morto, no? Magari una zona perturbata, che ne so, il triangolo delle Bermude italiano, non lo so. Ha trovato una zona dove è sparito proprio dalle mappe per un istante, anche dalla ricezione con il ricevitore. Sì, sente qualcuno, lo posso chiamare di nuovo la sottorazione. Sì, perché c'è un programma, vediamo se Franco l'ha trovato. No, negativo, quello che usavo io non ricordo più il nome. Era bellina, era carina, perché mi dava poi tutte le frequenze, no? Dove ascoltare poi. Era simpatico, lo cercherò con calma poi, mai nel tuo telefono, forse ce l'avevo installato in un altro telefono. Comunque Franco, quando parlava con le scuole, tanto bastava leggere anche Roger K, no? Dicevano tale giorno ci sarà collegamento di ISS con tale scuola, tale istituto, no? E lì parlavano 145%. Sempre lì. E mi ricordo anche di aver sentito radioamatori, segnali lontani, che tentavano di chiamare le ISS. Non era roba di Sassari, e quello ha detto cortesemente un attimo di bianco, cioè, gli stavano incasinando il collegamento con le scuole, capito? No, se sei nella portata è logico che disturbi. Ma è meno male che lo sanno, perché se ne comportano in un certo modo, ma c'è gente veramente ormai. Come si può dire, sentiamo un pietoso velo. Segnali lontani, comunque poi bisogna vedere se erano pure radioamatori, io non lo so, magari hanno sentito questo parlare con chissà chi, perché quello in alto e sente praticamente tutto il Mediterraneo quando passa su di noi, insomma. Adesso la navicella è sull'Oceano Pacifico, a sud-est del Giappone. È Giappone questo, aspetta, prima di fare figure di cacca. Sì, sud-est del Giappone. Ma poi il bello, che quando devono collegarsi missioni di rifornimento, che ne so, personale, che bisogna dare il cambio agli astronauti, e questi si devono agganciare a un'astronave che sembra ferma, no? Però caspita, quella tuba non so quante migliaia di chilometri orari, adesso non mi ricordo i valori, però sai, poi stessa velocità, quasi sembrano ferme tra di loro, no? A proposito, ieri hanno fatto quel filmetto Space Cowboy, l'avete visto? Hanno chiamato quattro vecchi astronauti, c'era attori conosciuti comunque, Clint Eastwood, non mi vengono i nomi, porca miseria, vabbè, bellino comunque, A che ora? Alle 9:15, Space Cowboys. Dunque, Clint Eastwood, poi c'era quello che ha fatto Men in Black, quello con gli allenamenti un po' trucci, e poi c'era quell'altro, non mi vengono i nomi, perdonatemi, carino, vabbè, ogni tanto lo danno. Praticamente la storia è che li hanno mandati su perché ufficialmente un grosso satellite per comunicazioni russo stava cominciando a calare piano piano, no? Diciamo avvicinarsi troppo alla Terra, no? C'era qualche problema nel sistema di guida, no? Ufficialmente era un satellite per comunicazione, no? Loro vanno con lo shuttle, si collegano, eccetera, e poi Clint Eastwood con la tuta entra nella parte interna, no? Più alta, era praticamente una rampa missilistica russa dai tempi della guerra fredda, che aveva perso il segnale, e poi li hanno avvisati che c'era il rischio che se questo bestione perdeva il segnale, lo interpretava come un attacco verso la Russia, avrebbe lanciato i missili, quindi verso territori americani e NATO. il senso del film è quello. Bellino. Beh, mi ricordo qualcosa, ma l'ho visto tanto tempo fa sicuramente. Riprendi Gianni. Thomas Jones, ma con L poi Tom Jones, insomma, quello che ha fatto anche con il Ranger che cercava il fuggitivo, che era cosa Harrison Ford, quello di allora. Però io mi ricordavo che come hanno fatto tanti di questi con i vecchietti, perché ce n'era uno che invece andavano tutti anziani per quello del meteorite che ha fatto di ghiaccio per farlo saltare in aria, e poi un pezzo l'ho visto anche ieri, ma non ho capito, insomma, una stazione russa. Allora, quello che dici tu è con Robert Duvall ed è aspetta, è Impact Imminent. No, Deep Impact, sì. Loro praticamente, almeno Duval era solo l'unico anziano, si sacrificano per la Terra, mentre il primo pezzo piccolo di meteorite di roccia e ghiaccio aveva colpito la Terra, e loro praticamente si è creata una cavità, no? Loro vanno proprio astronave testate tutto al centro, lo fanno saltare dall'interno, no? E salvando il pianeta sacrificano se stessi, sì. E poi vabbè, avevano fatto quello bello anche con Bruce Willis e tutti quegli attori, quello era il titolo del film. Comunque adesso vi dico gli attori, allora, tutti conosciuti, allora, cast. Allora, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, quello che hai detto tu Gianfranco, della Donald Sutherland, un altro pezzo a 90, e James Garner, un po' forse meno conosciuto comunque, eccetera eccetera, da poi altri attori più o meno conosciuti, dai. Scusate, devo correre in bagno, riprendete voi, dai. È tutto un attimo. Niente, dicevamo, quindi guarda che comunque c'è il tracciamento della stazione spaziale anche online. Ma che si è abbassato il segnale, hai toccato qualcosa? Sì, adesso sono a potenza, non lo vedo, adesso gli avevo la potenza. Aspetta, sì, è abbassata, ma perché si sente molto che bassa? Sì, un po' tipo di dietro, un po' di fruscio. Prima era più, il segnale sul bianco era più pulito. Questo dici? Così era? Non lo ricordo più. Sì, così è perfetto, quindi ti ascolto alla perfezione, come telefonata proprio. Infatti da me l'antenna insomma è abbastanza lontana, anche se cercavo buono per la stazione bagnata, stazionaria non è è a zero, ma non lo vedo. Niente, bisognerebbe lavorarci un po' sopra per migliorarla, ma non ne ho voglia, capito? Benissimo, è che se scendi sotto il 9 già ti porti appresso un po' di rumori, forse c'è un po' di cuore, scarichi le elettriche, cose varie, dai, temporali. Ma ti dirò, io sono anche la finestra aperta, per essere, ma cosa faccio stanotte? Si sente? Forse si sente ancora la vento. Non si sente niente adesso, neanche, non sta neanche piovendo e non c'è neanche freddo, sì. No, beh, c'è ancora l'influenza dello scirocco. Io notte rientrando al ghiero mi sembra ci fossero 22 o 23 gradi, allucinate proprio. Oh, come sto bene, tutta la Coca-Cola che mi sono bevuto stasera, mi stava scoppiando la vescica. Capo. Tu con la pizza, la Coca-Cola è micidiale, te la fa digerire benissimo. Io quando l'accompagno con la birra specialmente, mi tarda un po' la digestione, con la Coca-Cola si la squaglia completamente. via. Aspetta, no, ma sai cos'è poi? Vedi come sono io? Io già avevo un leggero bruciore di stomaco, no? Quindi uno cosa fa? Mangia in bianco, una cosa leggera, no? Pizza alla diavola, tutto con peperone, salame piccante, cipolla, quindi una cosa infuocata, più Coca-Cola, capito? Per dare il colpo di grazia alla mucosa dello stomaco. Vabbè, dai, un intanto ci sta, lo faccio anch'io. Non ho tanto affettato dalla piccanza, ma il peperoncino mi piace. Però devi stare attento, se c'è dei problemi sul stomaco, quella è una di quelle cose un po' bastarde che non ti avvisa, capito? Sì, magari c'è pesantezza di stomaco, poi piano piano potresti passare a cose più spiacevoli, neanche te ne accorgi. No, anzi Gianfra, non soffro dei problemi di stomaco, ogni tanto può capitare raramente, sai, c'è volte il caffè a stomaco vuoto, così un po' leggero di bruciorino o di acidità me lo fa a me. Allora, l'altro film è Armageddon, quello con Bruce Willis, carino, questo lo volevo riguardare. Dovrò aspettare che lo diano in televisione, oppure mi do la pirateria, me lo scarico da, come si chiama, microtorrent. Ma non so cosa utilizza mio figlio per i film, ma neanche li scarica, li guarda senza neanche bisogno di scaricarli. In streaming, sì, però poi non trovi mai il sito che lo dà in streaming a gratis. Poi in quel film c'è anche Liv Tyler, quella che ha fatto l'elfa nel Signore degli Anelli, Ponaredda, c'è Steve Buscemi, quello che ha fatto quella specie di serie TV che, dove lui era un gangster, Michael Bay, Ben Affleck c'era in quel film Armageddon, Will Patton, insomma gente conosciuta, carino anche quello. C'era un film dove c'era una tipa, un'attrice in gamba, biondina, non molto alta, non mi viene cato nel nome e nel cognome, che parlava sempre di questa roba qua. Ti ricordava qualcosa? No, devo sapere almeno il nome del film. Allora, in Armageddon c'era Liv Tyler, ripeto, l'elfa del Signore degli Anelli, no, già te la ricordi. Poi, almeno il nome del film mi serve, ma sempre fantascienza. No, non è fantascienza, proprio parlava di... Porca miseria, tu mi viene adesso. Tu più ci pensi peggio di me, poi a memoria sono peggio di te. Né il nome dell'attrice principale, che è conosciutissima questa attrice, non Jennifer, porca miseria, dai, ci penso un po'. Dunque, bionda, una bionda... chi c'è di bionda a Belloce? Come si chiama? Mannaggia, ma questo è Alzheimer, galoppante pure. No, sta diventando una cosa preoccupante per me, per i nomi. Come si chiama? Charlize Theron, per caso. Charlize Theron è... non è una donna, è di più, sono due donne messe assieme. È una cosa spettacolare, veramente. No, questa non è bellissima, Charlize Theron è bellissima, caspita, c'è un taglio d'occhi che è micidiale, no, è un'attrice, non è molto bella, è piccoletta, biondina, capelli corti, non molto lunghi, a volte si fa crescere, ma non molto, porca miseria. Sai cos'è, ce ne sono così tanti di attrici, poi a me piaceva molto anche quella che ha fatto Elizabeth, di cui ovviamente non ricordo il nome, ma nel film è spettacolare quell'attrice. Da poco ho visto che ha fatto uno spot di un profumo, mi pare, e c'hanno l'età mia, una cinquantina circa, dai. Quasi provo a fare una carrellata su internet, se ne trovo. Come si chiama? Hannibal, chi è che la intervistava lui? A me o Gianfranco? Beh, chi si ricorda? Il film di Hannibal, l'attrice, la giornalista che intervistava, come si chiamava? Ah, quella dell'FBI. È quella che ha fatto Contact, Jodie Foster, quella che ha fatto Taxi taxi driver, sì, ho capito, sì, quello che ha fatto peraltro il film dozzinale italiano Casotto del 77, cioè non credevo che ci, vabbè che era all'inizio, ma cioè, un anno ha fatto Taxi Driver che è stato un filmone, e poi uno o due anni dopo ha fatto Casotto che era una cosa grottesco, demenziale, filmuccolo, vabbè, divertente, c'era anche Johnny, non Dorelli, scusa, quello con la barba, vabbè, non mi viene, no. Ma Gianfranco c'è ancora? Sì, vi stavo ascoltando, ma non mi ricordo il... stavo pensando al film che stai dicendo, ma proprio non... Secondo me ce ne sono tanti, c'è anche uno da poco di quello del... sempre un'attrice che dici tu, però non mi viene il nome, che era arrivata con la nuova strana, con i polpi dentro, c'erano i tentacoli. Comunque c'è di forte, l'ha beccata Marco Nino, complimenti. E il film com'era? Contact? Era quello, sì, Contact, probabilmente. Quello con la sua verbale, Marco, giusto? No, allora, dunque, aspetta che mi si accavallano. Allora, Kate Blanchett è quella che dico io. Kate Blanchett non è una donna, per me è la donna, con la D maiuscola. Quella che ha fatto Elizabeth. Basta vederla in una qualsiasi delle foto di normali che trovi su Google. Troppo, troppo bella. Va bene. E allora, no, Contact parlava di una ricercatrice che prima era dare cibo a ascoltare gli omini verdi, poi ha chiesto finanziamenti a un miliardario, li era concessi, e con il SETI, quelle parabolone americane, no? Hanno beccato un segnale da Vega. Questo segnale conteneva praticamente una registrazione, è lungo da spiegare, praticamente costruiscono una specie di veicolo, mi sto arenando, Gianfra, aiuto. Sì, quello ho capito, era quello dal segnale codificato che riceve con la tipa, nessuno le crede, ma poi le credono e costruiscono questa cosa, una specie di navicella del tempo, e poi torna indietro con questa scienziata. No, io mi riferivo a quello che hanno dato da poco, sarà due settimane fa, che è tipo Contact, però è l'astronave che atterra ed è di forma ovale, è un uovo praticamente, che salgono una specie di montacarichi dentro, e cioè, questi sono protetti da una stanza, una parete, che ci sono questi polpi dentro, molto intelligenti, che hanno un linguaggio tutto particolare. Arrival, segnatelo bene, Arrival, sì, che praticamente sono riusciti a comunicare tramite questi grafemi che loro facevano con i tentacoli, no? Spruzzando, sembrava un nero di seppia, no? E questi grafemi poi la scienziata ha capito, erano circolari, no? Erano strani. Praticamente questi esseri erano talmente avanzati che vedevano e scrivevano, diciamo, si esprimevano quasi con una linea temporale continua, cioè vedevano il futuro e anche il passato, mi pare, e lei ha cominciato a capire il linguaggio e ha cominciato a avere visioni tipo di una bambina che poi sarebbe stata sua figlia in futuro, ma roba da mal di testa. Infatti ho detto, ma lo vuoi vedere? No, non ne voglio sapere io, perché io praticamente ogni tanto propongo a mamma questi film strani, anche questi mezzi orrorosi, tipo c'è quel film David, non i cervellotici, David Cronenberg o quell'altro, adesso non mi viene il nome, c'è roba che la guardi mille volte e non riesci a capire il meccanismo e non ne vuole mai sapere. No, comunque quello che piace a me, che è sempre secondo me tra i migliori, è quello là con quell'attore che ha fatto Matrix, Ultimatum alla Terra, che si chiama, una cosa del genere. Eia, Ultimatum alla Terra, solo che finisce sempre l'americana, che finisce bene, cioè presa una decisione del genere, no, di sterminare l'umanità prima che distrugga il pianeta, e poi di punto in bianco si fa infinocchiare da quel bambino che ha cominciato a star male, infettato da quelle nanosonde aliene, e cioè cambia idea dall'oggi al domani, non è credibile. Invece era meglio sterminare l'umanità, il pianeta ne avrebbe giovato, no, non ne conviene Gianfra. Purtroppo devo dire che guardando il mondo animale, guardando il mondo diciamo invece degli umani, se bisogna fare una scelta di chi eliminare probabilmente, purtroppo bisogna eliminare gli umani se si vuole salvare il pianeta, quindi sotto quel profilo era sicuramente realistica l'azione. Ecco. Anita, l'avete visto il film tra il manga e... tra il reale e il cartone animato, come via di mezzo. Quale? Il titolo, hai detto? Alita, A-L come Livorno, Alita. No, ma credo che sia una novità, vero? Lo devono ancora dare al cinema. Vediamo se lo trovo. No, io l'ho già visto già in streaming, quindi penso l'abbiano già dato al cinema, già da un po'. Comunque è nuovo come film, Allora, ho trovato, vediamo, no, per me è una novità. Vabbè, io di manga, oddio. Mamma mia, Rosa Salazari non è già inquietante lì a vedersi. No, a me se devo guardare manga o cosa guardo il manga, tipo Ghost in the Shell, mi era piaciuto come era disegnato, Ghost in the Shell, quello giapponese, il vecchio e non quei rifacimenti mezzi giocattolo, mezzi telefilm, vabbè, aspetta che me lo segno questo comunque. Allora, guarda, poi fai sapere, per me è un bel film, poi dipende dai gusti, dai. Avanti, Gianni. No, invece io volevo dire che stanno dando questo film, telefilm, no, anzi, non so neanche se è un telefilm, guarda, è paradossale la cosa. Sirena praticamente, in quest'isola appare questa sirena, i soliti militari cattivi la prendono prigioniera, poi ne arriva un'altra che è la sorella e cerca di trovare questa prigioniera. Io stavo guardando e di colpo giustamente è finito così, senza preavviso, niente, senza preavviso, senza niente, è finito. E quindi mi sto chiedendo, ok, va bene, non ti hanno detto se c'è un seguito, se c'è una puntata, cioè è una di quelle cose che troncate proprio, devo capire quando se qualcuno l'ha visto. No, da parte mia è negativo, ma in genere quando ti dice così qualche altro film lo faranno, oppure una serie poi comincia con i telefilm. Ogni tanto molli tu il microfono, che perde, manca un po' il segnale, forse sei tu che molli un po' la portante. Sì, se devo dire la verità, mi sa che c'ho il ditino mezzo cancarato, come direbbe qualcuno. Qua il pulsante è piccolo, c'è anche il look, forse mi conviene utilizzare quello, ma è storico. E quando allento, appena appena la presa, anche rispetto all'altro, mi scuro da sotto là, non c'è da fare. Ovviamente la portante smette, quindi non è colpa della parte, è colpa mia, proprio che c'è il vitino un po' delicato. Buonasera a tutti. Ciao Gianni. Sì, ho capito, era solo per sapere se fosse un problema o meno. Rilanciamo Gianni che è appena entrato. E siamo in compagnia di Gianfranco e di Marco, Marco Pollo. Avanti Gianni. Caspita, buonasera a tutta la ruota, amici vicini e lontani. Un saluto a te Franco, Gianfranco e Marco, vai avanti fra. Penso, cava la ruota, è un po' esagerato comunque, dai. Un ruotino, ben sentito, avanti Marco. Ciao già dopo tanto, io disperavo di sentirti più in futuro, anche per WhatsApp non lo sto nemmeno trattando, mi hai detto tra noi. Ho acceso, ho sentito loro due, sono entrato a bomba, alla fine siamo qua da quant'è? Un'oretta e mezza, un'ora. Beh capo, io penso un'oretta abbondante, forse anche di più. Avanti Gianfranco. Sì, buonasera Gianni, però siccome io giustamente ho la mia veneranda età, non ti vorrei confondere, perché la voce mi sembra diversa, da Gianni doppio rumo, quindi è sicuramente un altro Gianni. Lancio il microfono, a meno che non hai cambiato apparato e sei Gianni doppio rumo. Negativo, negativo, il profeta della stazione, quindi rimango sempre io. E niente, quindi rinnovo i saluti a Marco, diciamo che mi sono preso una pausa, a parte che ogni tanto accendevo, però praticamente il silenzio era imperversava, quindi ho detto, ma poi adesso ho acceso, ho sentito conversazione, quindi mi sono buttato dentro. Avanti Marco. Io non sto accendendo nemmeno, qua ci sono due dita di polvere sul baracchino e sul ricevitore, senza scherzi, non li sto nemmeno coprendo, spolverando nulla, e avevo acceso giusto oggi per vedere se il vento aveva portato via qualche radiale, mezzo stilo, invece ho visto che tutto ancora tira avanti qua, e ho beccato loro due, dai. Mi ha fatto piacere sentirti. Comunque, prima scusate, ho sbagliato, non è David Cronenberg, vabbè, buono anche quello, David Lynch. Io quando propongo roba di David Lynch a mamma, che sono abbastanza enigmatici, non ne vuol vedere, non ci capisce una mazza. Già lo sapete, no, che David Lynch è un po' così, va seguito con molta molta attenzione. La Giofra. Sì, no, poi se ne sono andato talmente tanti che non si capisce un tubo. Tu fidati che a me, come c'ho anche Netflix, ogni tanto ci vado e mi guardo, adesso non so se tu hai occasione di andarci su Netflix o Flix, come si suol dire, però stavo andando anche questi film, praticamente cinesi, tradotti ovviamente in italiano, che sono sulla stessa riga degli americani, ma guarda, tipo l'ultimo che ho visto era proprio di genere militare, andavano, erano in Somalia, che stavano liberando i loro concittadini con una squadra speciale, guarda, cioè una fotocopia non proprio ben riuscita di quegli americani, con tanto anche di tutte quelle cose da gradarsi che fanno gli americani di norma. Quindi se ti capita magari guardatene qualcuno che perlomeno ti fa ridere. Ma roba tipo Navy Seal oppure Black Hawk Down, però in versione cinese. Non sai cosa mi stanno piacendo, però non mettono i sottotitoli in italiano, cioè mettono i sottotitoli anche in brasiliano, in tutte le lingue tranne che italiano. Tutta quella serie di sci-fi, credo si dica così, sci-fi, piccoli mini film fantascientifici su YouTube, fatti da questa Dust, scritto Dust, no? Sono trame sempre tutta roba fantascienza, sembra di leggere l'Eternauta, tutta quella roba lì di pianeti, di alieni. Sono brevi trame, naturalmente se metti almeno i sottotitoli in inglese, leggendo qualcosa un po' capisci, anche se sai cos'è, ti distrae dalla visione del film a leggere i sottotitoli un po'. Però certe trame sono carine. Invece gli horror li ho mollati, gli horror erano più roba di quando ero ragazzino, poi mi hanno rotto quelli. E generi come siete messi voi? Sentimentale, commedia, io inizia tu Gianni. Tu cosa preferisci come genere TV? Film, dico film. In questo momento sono a digiuno, mi sono preso una pausa e quindi non so come ti potrei rispondere. Dipende dallo stato d'animo in cui ti trovi, magari hai voglia di farti delle risate e ti guardi la palla scontata, oppure magari se non è stato l'animo diverso e cerchi qualcos'altro, quindi è un po' relativa la questione. No, io adesso per il momento mi son preso una pausa con chiamiamolo il grande schermo. e quindi niente, rilancio a Franco, vediamo un po' i gusti, dai. Break per un controllo. Avanti. Sì, ciao, buonasera Roberto, qua da questa parte. Come sta andando? Benissimo, qua sei 9 più 20, la radio è 5, perfetta. Ok, anche tu 9 più 20, radio 5. Ok, vi saluto adesso, sono entrato un attimino a salutare. Ciao, ciao. Ottimamente, Roberto. Ciao Roberto. Bene, sì, no, io guardo più che altro film d'azione, però a volte anche qualcosa di romantico, dipende come dice Gianni, da dove è stato, dai. Non mi ottengo nulla, dai. Ho un amico che scarica di un po' di tutto, io gli do solo l'hard disk e lui riempie, travasa e poi guardo un po' tutto, dai. Avanti Gianfra. Sì, sì, okay, per me il controllo comunque è radio 5 perfetta, il segnale qua deve essere un 9,20, 9,30. Sì, io già non te lo dico Marco perché tanto lo sai già, quindi è inutile che lo dica. Vi volevo fare una battuta. No, a me sta piacendo sempre un po' roba fantascienza perché fatti bene, oppure roba tipo, sai, Inception, tutte quelle cose cervellottiche strane, devi stare molto attento alla trama, che hanno ben poco a fare con la realtà, capito? Questa roba. Mamma mi critica, dice sì, però tutta roba surreale, se voglio roba reale mi guardo il telegiornale e vedi cose ben più orribili al telegiornale, detto tra noi. No, vi volevo dire, i generi preferiti, allora, su porn, MILF e lesbiche. Ecco, non lo volevo dire io. Poi vabbè, sono generi simili, MILF, Cougar, Mature, siamo lì, più lesbiche ovviamente. Quindi c'è quel così, ma quello rientra nell'ambito porno, lo puoi catalogare tranquillamente così. Non di sola fantascienza vive l'uomo, ci vuole anche, no? Il lato oscuro ogni tanto. Va bene, sì, e io sempre, quella roba strana, guarda, più strana è anche quell'arrival, qualcuno, tu, ogni paranoia, no, non succede niente, perché sai, se non c'è azione e sparatorie, certi non ne guardano film. Per esempio, già non il terzo di John Wick non mi è piaciuto. Troppa fantasia, troppe sparatorie, troppo caricato. Il primo ottimo, bello, il secondo bello, il terzo hanno già cominciato a... è diventata una telenovela già, e stanno già facendo il quarto. Come si chiama quello? Un po' come si chiama? Ti presento John Black, ti è piaciuto? Allora, quello è l'attore è Keanu Reeves, dunque ti presento Joe Black, ma Joe Black era con, aspetta, quello della morte, dove praticamente questo personaggio qua rappresentava la morte, quello lì, chi era l'attore? Non era DiCaprio, ma era quello che ha fatto Fight Club, porca miseria. Brad Pitt. Bravo, sì, l'ho visto. E c'era anche quello Hannibal, l'attore, nome, vabbè, quello lì. Hopkins. Anthony Hopkins, sì. No, quello va bene, un po' lento, così un po' lento, ma non mi ha impressionato più di tanto, infatti l'ho guardato una volta solo, poi non l'ho più riguardato, non mi ha lasciato niente, non mi ha entusiasmato, non mi ha, vai Gianni. Cosa vi devo dire? A parte la mia, in questo momento il mio, la mia, bah, cazzo non mi viene il termine, la mia astinenza, chiamiamola astinenza, vabbè, distacco momentaneo, però sono un po' più sui film di concetto, qualcosa che insomma, piuttosto alle solite americanate, tra virgolette, tipo Fast and Furious, sparatorie varie e compagnia cantante, magari se c'è una trama con un bel contenuto, insomma, è anche meglio, poi per carità, insomma, tanto più o meno la, lo stampino è quello, però preferisco di gran lunga qualcosa di un po' più sensato, capito, con un minimo di trama, un minimo di logica. Poi ci stanno anche le commedie, preferisco molto, se devo ridere mi affido ai film francesi e quelli sicuro ti fanno ridere. Eia, vabbè, quello, quei film là ci siamo capiti un po', no? Ero lì, è una cosa già più delicata, più intima. Bene. Poi vabbè, poi ogni tanto mi può colpire anche quel ragazzo, ma quel film, non so, era sensuale, non vedevi niente, ma era sensuale lo stesso, come la ragazza all'orecchino di perla o la ragazza col turbante, quello ho avuto quasi, quando avevo fatto vedere il quadro per intero, che io conoscevo già quasi, no? Ho fatto la panoramica dal dettaglio e una cosa, ho avuto una mezza sindrome Stendhal, ho avuto, come dire, una forte cosa emotiva, non lo so come spiegartelo. Si è andato in blackout, si è andato. No, in blackout no, ma un cosa, hai già capito, una, ma non mi so esprimere a scuola. Un'emozione abbastanza forte mi ha dato. Perché lì non vedevi niente, ma già quello come le passava i colori, già lo sfiorare delle mani lì, nel 600 nell'Olanda. Il fatto che l'abbia vista senza quella calotta in testa, perché non potevi mostrare i capelli lì. Non so se l'abbiate visto comunque, insomma. Era abbastanza sensuale. Pur non vedendo niente di minimamente scabroso, era bello, bello. E comunque è che piace anche a quell'epoca, se volevi fare certe cose, spogliare ti dovevi, Mamma mia, lì avere un figlio fuori dal matrimonio, sì, praticamente tutte le ragazze per bene, almeno che non fossero contesse o quello che era, insomma, avevano tutta questo cappello particolare in testa, come c'erano le donne Amish, una cosa del genere, adesso copri capo, che praticamente non dovevi mostrare i capelli, ad esempio le nobili donne potevano mostrarli, oppure delle persone del popolo che lo mostravano erano quelle poco serie, quelle nei bar, nelle bettole, le meretrici, già hai capito. E l'attrice, dell'attrice ovviamente non ricordo il nome, ma è quella che ha fatto The Island, come si chiama, porca miseriaccia, Gianni, ti ricordi The Island, no? Quei cloni da usare a pezzi di ricambio. Ho capito, la bionda, adesso sfugge anche a me, ho capito, però non mi viene il nome, quindi passo la palla. Scarlett Johansson? Aspetta, non sento bene, Fra, aspetta che ho l'orecchio lontano, dimmi. No, c'era Scarlett Johansson. Bravo, bravissimo, mi pare che sia proprio lì. Aspetta che guardo. Approfitto di questo treno di bianco per scappare, ma no, non mi sono accorto che fosse così tardi. Saluto a tutti, buona serata, buon proseguimento. Mi raccomando, accendetela un attimino sta radio, se no metto la muffa, poi si guardano e non va bene. Ciao Marco, ogni tanto entra in radio, così mangi di meno, magari c'è anche meglio. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Gianfranco, da parte mia, saluti e alle prossime. Ciao Gianfranco, ben sentito dopo tanto. Avanti, Marco. Eia, ciao Gianfra, eia, dovrei entrare più spesso, ma ho detto i pasticci che ho mangiato oggi, infatti tuttora c'è un leggero bruciore, ma è roba passeggera comunque, non è, c'ho lo stomaco distrutto abbastanza. Sì, comunque Scarlett Johansson e Colin Firth, il pittore, nella parte del pittore. No, poi lì c'è la storia che praticamente per il quadro le prestava gli orecchini della moglie. Come spiegare, le faceva il buco dell'orecchio, no? Che all'epoca non, quasi era, non so se un'onta bucarsi l'orecchio per, E poi c'è qualcuno che ha fatto delle spiegazioni un po' più sempre freudiane, la perforazione dell'orecchio che pratica lei, che lei era tratta da lui, lui da lei, insomma, e forse la deflorazione, tutte menate freudiane. Vabbè, comunque, bellino come film, bellino. Poi la moglie ha scoperto in bestialità, bel, bel film. Immagino, no, non lo ricordo vagamente, anch'io i film li guardo, però poi li dimentico, devo guardare almeno 2-3-4 volte per poi ricordare qualcosa. Aiaia. Aiaia, ecco qua. Sì, praticamente questo film l'hanno fatto così dal quadro, no? Forse qualcuno ci ha scritto anche due righe, qualche romanzo. L'attrice già era adatta, diciamo, a fare la figura, cioè la modella del quadro, così. Bene, che sento odore di apparecchio surriscaldato, lo sai, caldo dietro, il baracchino. Tanto tempo che non lo accendevo, adesso si sta arrostendo, si sta tostando. No, qua l'issipatore è freddo, vabbè, io non faccio passaggi lunghi, non molto lunghi, quindi forse tu impegni di più i finali. Comunque anche qua è pronto per la carica, vi saluto, un abbraccio circolare a tutti e due, Gianni e Marco, ok? Avanti Gianni. Ciao Franco, buona carica, mi hai sentito, ci sentiamo alle prossime, dai, a presto, ciao ciao. Ciao, avanti Marco, per i saluti e poi chiudo. Eia, abbiamo fatto le 8:30 passate. Eia, ciao Fra, buona serata, ben sentito dopo tanto, buona cena, buon tutto alle prossime, dai. Ok, se capigia, tu sei sempre con che antenna, il quarto d'onda? Sempre con la boomerang, sempre quella, non ho toccato niente. Ehi, anche perché a conti fatti non magari non conviene nemmeno espandere tutta la cosa, boh, in futuro si vedrà. Sembra davvero una cosa così lontana, la 27, a quello che era una volta. Oggi è stato un caso fortuito che abbia acceso, che abbia sentito loro. Se non avessi acceso per il vento a pigiare la portante, non li avrei sentiti loro. Ho capito. No, quando ieri avantieri ho acceso così per caso, ho girato, ho fatto una spazzolata e ho beccato, quando ieri avantieri ho beccato Alessio e Franco che stavano chiacchierando, così al volo, 10 minuti e siamo andati via tutti, dai. E anche Pomponio, ci siamo visti poco tempo fa, anche lui ha detto accendi, io dico quanto a me, io non ti prometto che accendo perché poi non accendo, magari mi distraggo con altro, sono troppo incostante nell'utilizzo della radio, non aggiungo quasi più gana, vabbè. Ah, poi a parte che mi si è bruciato l'alimentatore, quello a trasformatore, ho cominciato a fare un rumoraccio il baracchino, ho spento tutto. Allora, era un alimentatore della GBC, no? 5 ampere normali, 7 di picco, 70 euro, un alimentatore alla melle, no? Costano di più, caspita, GBC il prezzo è più che pieno. Però confidavo nella maggior durata proprio di quello, ma dentro c'era l'impossibile, ci ho trovato una fitta ragnatela, c'era il ragno proprio dentro che aveva preso tutto quanto, force il teporino, sai, si è insediato lì. Poi ci ho trovato la terra dentro questo alimentatore, cioè non polvere, terra. Siccome lo lasciavo sempre a terra, poi sai, passando la scopa, il moccio, c'era schizzi di moccio, no? Insomma, c'era finito dentro di tutto di più. E ho visto un condensatore con della bavetta tipo acido, probabilmente è partito un condensatore. Magari cambiando solo quello si risolve. Per il resto l'ho pulito, però non funziona più. Credo che si accenda l'alimentatore, mi sembra di sentire la vibrazione del trasformatore, ma non manda più tensione. È probabile che sia quel condensatore, magari cambiano solo quello, riparte alla grande, probabilmente è così. cioè, se non ci sono altri componenti scoppiati, penso che sia solo il problema del condensatore. Poi chiaramente il ragno al caldo si è fatto la tana, si è fatto la, come si dice, il nido, come si suol dire, e ha trovato un posto comodo a Rugaggio. Anche perché l'alimentatore è una cosa che non spegnevo quasi mai, quindi ci andava anche il gatto ogni tanto, perché percepiva un lieve teporino, ma lieve, lievissimo, no, ci salivano le zampe. E si era fatto, aspetta, la villa si era fatto, tutto pieno di ragnatele, c'era un grido, c'era tutto in corto, c'era andato. E vabbè. Infatti sto usando l'alimentatore Proxel, quello da 30 ampere di picco, quelli tutti senza il trasformatore, come si chiama, switching, problemi non ne dà, tiene anche molti ampere, il baracchino consuma 2-3, figurati, ce n'è da buttare, va bene. E così è passata anche quest'estate, già, al mare sono andato 4 volte mi pare, sì, potrei dire 4, punto, bruciata l'estate, d'altronde voglia non ce n'era, proprio voglia fisicamente non ce n'era voglia. E io ho 0, io ho totalizzato uno 0, proprio nulla, nulla, vabbè, se tutto va bene ci riproviamo l'anno prossimo, però... quest'anno 0, dai, ho preferito così, quindi anche io poca voglia, altre cose in ballo, quindi niente di eccezionale, dai, voglia, e quindi tabula rasa, dai. Riprego? Avanti. Sì, sono di nuovo io. Siccome sono uscito fuori per chiudere la finestra, ho visto una cosa eccezionale, ve la volevo dire. Ripeto, per me, nonostante non ho visto tante, è la prima volta. Se guardate verso, verso l'aeroporto, per un aeroporto però spostato tra, anzi, esattamente Argentiera, vedete che c'è un'attività elettrica da paura, semplicemente mai visto una cosa del genere. Praticamente ci sono i fulmini ininterrotti, tutti uno dietro l'altro, ma con una frequenza mai vista. Ah, peccato, però qualcosa dovrei vederla all'orizzonte, qualcosa, e dopo guardo, proprio a tubo pieno, uno dietro l'altro, anche globulari magari. No, no, è una cosa enorme, tra l'altro con la radio c'ho il S2 del Querrante, quindi è strano che non li senta, ma deve essere localizzato in mare, ma una cosa del genere, ho paura che dia fastidio anche agli aerei, perché non è il fulmine, è il tuono, è tutta una serie di fulmini, veramente in un'ora stiamo parlando di migliaia e migliaia di fulmini qua. Per precauzione sta con tutto. Buonanotte a tutti, speriamo che ce la mandi, che c'è, insomma, che se rimanga dove, dato che è lontano. Adesso vado a vedere, un attimino già, arrivo subito, ciao Gianfranco, c'ho la finestra proprio verso Alghero, verso quella zona, vado a vedere un attimo. Ciao Gianfranco, grazie della segnalazione, e io sono basso, sono coperto a Monteoro, quindi ciccia, dai, ok. Anche io sono dietro Monteoro, però lo vedo, si vede chiaramente qua. Ok, ciao a tutti, buonanotte. Allora, qua da oltre il fronte nuvoloso, che fa da orizzonte, sì, si vede in alto, quindi dietro il fronte nuvoloso che me lo copre, c'è proprio zoom, uno dietro l'altro, pa, pa, dei flash, mamma mia, è meglio che scarichi in mare, che scarichi lontano, non è bella una tempesta di fulmini sulla proprio città, già ne è andato a guardare. La biocco, già dici sì? Beh, visto qualcosa? Sì, c'è un fronte di nuvole che mi copre la zona, però al di sopra vedo continui lampi, bagliori, no? Che vengono da dietro. è una cosa proprio a tubo pieno, come ho detto prima, continuo, Tanto pensa se viene sulla stazza di città, mamma mia, mamma di turchi, altro che messa a terra, Sono coperto a Monte Oro, ma si sviluppano in alto, sono in alto queste attività elettriche un po' più in basso, cioè nel senso sono altezza nuvole un po' più basse. Non te lo so dire perché questo fronte nuvoloso me lo copre, però riesco a percepire dall'alto, dal bordo, arriva quello che c'è dietro mi un po'. Non so dire a che altezza sia, vabbè comunque altezza nuvole, tanto tutto da lì, ma può essere anche che siano fulmini globulari tra nube e nube. Ho capito. Io ti ripeto, non... da qua non vedo niente, quindi. È meglio che stia in mare questa roba, per carità. Io temo abbastanza i fulmini e i danni che possono fare. Anzi, quando sono in zone, quello c'è temporale, no? Lampi, fulmini, come li puoi chiamare, non mi trovo a mio agio a passare in luoghi aperti, tipo Piazza Italia, con l'ombrello, mamma mia, poi l'ombrello c'ha la stina in metallo pure, mamma mia, preferisco andare muro muro come i topi. Prevenire è meglio curare. Anche se dovesse succedere la cosa è talmente veloce che manco te ne avrei accorgi. Mamma mia, un millesimo di secondo di luce sfavillante e poi nulla. Sì, proprio più veloce di un batter di ciglio. Proprio sì, come fulminato, proprio come si suol dire. Per carità, roba brutta. Ecco qua, allora, questo... Ok. Ascolta già, ti volevo chiedere, tu hai lo smartphone con Windows, com'era? Non mi ricordo la sigla, con Windows praticamente. Windows Phone? KK, sì, ce l'ho ancora. Funziona, adesso sta ancora funzionando, anche se sono sparite un sacco di applicazioni. E a dicembre sparisce anche il supporto per WhatsApp. Avevo letto da poco una cosa, a quello volevo andare a parare lì, e avevo letto che volevano proprio smettere il supporto Windows Phone, e poi brutte notizie, l'arrivo per chi usa il 3G. Ti spiego, tu cosa, che rete riesci a beccare con quel telefono, la 3G o la 4G? No, il massimo è 3G. Sai perché? E avevi preso Iliad. Perché avevo letto su questi forum tecnologici soliti che vogliono, nel 2020 vorrebbero spegnere il 3G, sempre a favore del 5G, già stanno studiando il 6G, così chi ha un telefono 3G ce lo deve buttare. Adesso te ne dico una, avevo uno Xiaomi Redmi Note 5, però siccome era la versione cinese, una mezza truffa, diciamo, globalizzata, diciamo, era la versione cinese con la sistema operativo globale, io come avevo messo la scheda Iliad mi compariva solo il 3G, ho detto, ma com'è possibile che con Iliad vedo solo il 3G, non mi compare il 4G, mettevo la scheda o mobile e compariva il 4G, perché a quanto pare quello Xiaomi, quel modello, la versione cinese, perché quella versione nostra ce l'avrebbe avuto, non aveva la banda 20, la banda 20 corrisponde alla banda di 8 MHz, adesso non mi ricordo se sono gli 800 o 900, ecco, gli mancava proprio quella banda, per cui io quando lo usavo, a questo proposito, Iliad usava proprio la banda 20 in Italia e quello cellulare non me la faceva usare, e quindi anziché 4G con Iliad mi funzionava solo in 3G. Ma poi metti che io non abbia metti che ci abbia telefoni vecchi, no, quello che c'avevo prima, cioè se così bruceranno un bel di telefoni, ti costringeranno a cambiare telefono, costringeranno un bel di gente a cambiare telefono. Oppure un bel, non lo so, magari tutti ormai hanno il 4G, tutto a consumismo, capito? Tutto per favorire nuovi modelli, nuovi 4G, 5G, 6G, a far girare il mercato. Vabbè, certo, vabbè, sì, nella storia di, del supporto di Windows Phone è già da parecchio, già da qualche anno, già da un paio d'anni buoni che proprio non esiste più niente. E quindi io me lo tengo finché funziona, dopodiché intanto c'ho, non ho, cioè, a parte WhatsApp e Telegram non ho altro, quindi per come lo uso io il telefono mi va bene così. Poi c'ha giusto quelle un'applicazione tipo l'equivalente di Google Maps, la bagagliera, ma poi per il resto è un comune telefono. Non, per il momento non mi sto ancora mettendo il problema di cambiarlo, e poi se è possibile lo farei il più tardi possibile. Non è, mi va bene così adesso, capito? Ehi, non è prioritaria la cosa, dai. Tanto, ho detto, stavamo così bene quando non esistevano i cellulari pure. Io fino al 99 non ho mai avuto cellulare. Poi nel 99, vabbè, perché mamma è andata a lavorare fuori, ma aveva preso lì il primo cellulare, della Telital, mi pare. Sì, 1999. E pensa che il numero di telefono, c'ho lo stesso numero di telefono Vodafone dal 99, quello principale, e quello è su un telefonino a tasti, proprio quelli piccolini, no, Motorola a tasti. Invece sullo smartphone ho ottenuto o mobile, perché Iliad non c'ho ripetitori vicino. Sono in una zona d'ombra per il ripetito, quindi il segnale era molto basso, devi vedere. Invece qua a me, cioè a 30 metri ho ripetitore Vodafone, che o mobile sarebbe Vodafone, e quindi il segnale qua è a tubo pieno. E poi in città, anche andando fuori, problemi non ce n'è, sempre Vodafone, già è bello coperto. Purtroppo Iliad non c'ha le antenne ancora, ce le ha forse a Milano, a Roma, no? Nei grossi centri stanno cominciando solo adesso a metterle, a quando arrivare a Sassari, e quindi si deve appoggiare sui ponti 3 Wind, che prima c'era la 3 ed era 1, poi la Wind, poi si sono uniti, quindi ogni ponte, ripetitore, come io chiamo sempre ripetitori, deve gestire due tipi di clienti. Come è arrivato Iliad deve gestire tre tipi di clienti, quelli Wind, quelli Iliad e quelli 3. Ecco perché il segnale certe volte, quando è lento, è perché deve gestire un po' di gente, la stessa cella, come dire. Vabbè. Quindi la scheda è ancora valida, ogni tanto la ricaricherò una volta all'anno almeno, in modo da non farla scadere, non si sa mai poi come può svilupparsi il futuro di queste schede SIM, quindi non la voglio far scadere comunque. Ho capito, sì, io ho fatto ho disdetto, avevo la scheda Iliad per internet, e praticamente ho fatto il passaggio definitivo al vecchio numero, quindi adesso c'ho solo Iliad e niente, insomma, per adesso per adesso non mi posso lamentare. Poi se hai un segnale buono anche, tanto mi alla fine, io invece, diciamo, più video guardo, perché sai, su YouTube quando vuoi vedere video belli, anche questi film sci-fi, no, che sono 1080p, no, io metto sempre la qualità massima per vederlo bene, e cominciava a ciucciare, insomma, i 30 giga mensili, sono arrivato a certi momenti e mi finivano prima della data di rinnovo, Allora ho fatto un piccolo sacrificio e li ho passati a 50 giga. C'era l'offerta, allora tenevi la stessa velocità di navigazione, no? A 60 megabit per secondo, cioè stessa velocità di navigazione, e per 2 euro in più passavano da 30 a 50 gigabyte mensili o gigabit, adesso non mi sto incasinando con gigabit e bit e byte. E insomma già è bello. Poi lo uso come hotspot per la TV box, no, per rendere smart una TV LCD beccia, no, e non ci vuole lo schiaffo, e lì ho messo questa TV box e riesco a tirarci avanti ancora un po', no, poi legge tutti i file video. E ogni tanto anche per il computer portatile lo uso come hotspot e il cellulare sta sullo smartphone, capito? Tutto da lì faccio. Io uguale. Sì, io adesso ti ripeto, vabbè, per quello che consumo, che uso, con India 50 giga, cioè sono arrivato a... Non sono riuscito mai a consumarli tutti, capito? Spesso e volentieri me ne avanzano 15, 12, dipende, capito? Quindi nell'arco di un mese va benissimo così. Così succedeva a me, no? Tu pagavi per 30, fino a 30 mensili, me ne rimanevano 15, 10, poi ho cominciato a allargarmi, a guardarmi video a qualità più alta. Alla fine mi sono trovato in difficoltà con 30 mensili, oppure video tutorial su YouTube, no? Video che ti spiegano come usare una certa cosa, come fare una certa cosa, soprattutto in ambito di computer. E se li mangia, quando guardi roba in full HD se li mangia come giga. E vabbè, sono contento di averlo fatto, così non rimango a secco. Oh, Gianni mio, è stata buttata proprio, e io, come hai detto tu, mi rifarò la prossima estate. Io questa frase l'ho detta, la sto dicendo già da un decennio, questa estate è stata così, ma la prossima estate sarà meglio. Invece non... perché lo sai, no, o c'è la casa in campagna o ti affitti roba, ma se devi andare tutti lì quando si può, la benzina nella macchina, vai lì, non trovi il parcheggio, devi aspettare, lo trovi, porti tutta la roba in mare, ombrellone, zaino, spiaggina, lettino, perché voglio star comodo, no, è ovvio, il lettino pieghevole. Poi vabbè, te ne torni, arrivi qui, non c'è parcheggio, né qui, né nella via di su, né nella via di giù, cioè c'è volte sono tre quarti d'ora girando, non trovi un parcheggio, ti ribassa la gana di uscire proprio di casa. E che te devo dire? Poi se ci metti che soffro anche il caldo, quindi... un problema. Certo, beh, ti ribassa la fantasia, quello è poco ma sicuro, e quindi più o meno siamo nella stessa, cioè nel senso, più o meno abbiamo fatto una scelta simile, dai, adesso ti ripeto, non la biugana, quindi altre cose per la testa e niente, poi giustamente se uno la voglia fare tiene altre cose, ci va appunto e basta, senza stare lì troppo a decidere. Poi giustamente devi mettere in conto anche tutta una serie di cose, quindi il gioco ne deve fare la candela, come si dice. E poi io non è che ci sto nemmeno tutta la mattina, dalle 9 alle 8 di sera come fanno circa, io ci sto 2 orette, 3 orette, dai. E alla fine, cioè, lo sforzo che ci metti per andare e tornare non vale, già si sta bene in acqua, fotti bene, farò poi. Te l'ho detto, parcheggio qua sta diventando drammatico, qua è considerato centro città, non siamo in periferia. Ehi, già ne saprei qualcosa anche tu lì, noi non ne parliamo, lì c'è pure la stazione, quindi c'è un passaggio notevole di mezzi, di... vabbè, pazienza, quando non c'è più la voglia, pazienza, mi riempio la vasca da bagno, e mi butto nella mi immergo nella vasca da bagno piena d'acqua. Bene. Bella chiacchierata oggi, ho detto qua è così, o stiamo mesi e mesi che non si sente nessuno oppure ci rifacciamo in una serata. Adesso vedrai che adesso col cambiare del tempo piano piano già si ripopola, già esce in appizzo, anche gli altri sono una questione di tempo, quindi vedrai che già saltano fuori. Non lo so mica però, perché vabbè l'estate è già finita, benché domenica c'era un caldo bestiale, c'era proprio andarsi al mare, e ieri quasi, caspita, sono uscito di mattina, già metà mattinata, per i miei gusti avevo già troppo caldo, dove maglietta. È bello che vedo gente con la giacca, cioè vedo già gente con la giacca, col golfo, mamma che gente, che sono in maglietta, anche di sera, se per caso si esce in macchina, si fa un giro a pigliare un caffè, anche con i vetri aperti sono in maglietta io, pantaloni estivi, lunghi ma estivi, e così è. Infatti non vedo l'ora di poter dire, mamma mia sto morendo di freddo. Preferisco il freddo, perché il caldo mi toglie il respiro, mi soffoca. Oh già, poco fa con Gianfranco abbiamo nominato questo HARP, quel sistema di antenne che dicono che serve per gli esperimenti climatici, quella è materia complottisti, perché si dice che si possa usare con interriflessione, non so che livello, se io una sfera, troposfera, per modificare il clima in alcune parti del mondo, o addirittura generare cose negative, uragani, tifoni, no? Sicuramente spereranno di riuscire a usarla come arma, come sempre. Sì, ma quel tipo di tecnologia c'era emana anche la Russia, Cina, insomma, sono quella tecnologia è in possesso di svariati stati, quindi già la usano. È una cosa abbastanza potente, cioè poi quella americana dovrebbe essere a Guacona in Alaska, poi in Russia, non mi ricordo dove, in Cina, anche in America Latina credo che ci siano un paio di installazioni, in Australia. No, esistono, sono perfettamente funzionanti. Poi bisogna vedere se hanno gli effetti voluti, cioè se può colpire paesi terzi, perché cioè, se queste antenne sono puntate, non so se sono puntate in verticale, cioè che riflessione fai? Devono avere un certo angolo, no? Per beccare ionosfera, troposfera, essere come le onde radio, non sono onde radio, essere ritrasmesse in un punto X, boh. Vabbè. E poi ancora sono acerbi, poi ricordati tanto quello che si vede, quello che si sa è quello che si vede, no? Il problema è quello che non conosciamo, chissà quante cose stanno studiando, allucinanti, sempre per far danno e non per migliorare diciamo l'umanità, ma armi peggiori di quelle atomiche magari. Guarda, non mi ricordo se fosse un americano o un australiano negli anni 80, aveva costruito un accrocchio con la potenza di un kilowatt, e praticamente questo signore praticamente con questo tipo di macchinario che funziona né più né meno con lo stesso principio di HARP, riusciva attraverso le onde che rimbalzavano e ricadevano giù a terra, praticamente riuscire a capire tramite delle sonde nel terreno, riuscire a capire se c'erano delle sacche di gas, carbone, petrolio, acqua, insomma, o altre cose simili. Ti ripeto, con una potenza di un kilowatt. E poi stranamente questa persona è sparita, adesso non mi ricordo il nome, adesso non mi ricordo se fosse australiano o americano, comunque il principio più o meno era quello, capito? Ah, buono. E praticamente è come fare una risonanza magnetica quasi al terreno, al sottosuolo, e vedere se c'ha giacimenti petroliferi, sacchi di gas, minerali. Eia, se era roba buona l'avranno accoppato e gli avranno rubato i brevetti o i progetti comunque. Eia, sì, praticamente c'era un esempio, ho visto un esempio di come funzionava questo tipo di tecnologia. Praticamente c'era un cubo in plessiglass pieno di sabbia grossa con un modellino di macchinetta, e per simulare praticamente questo tipo di tecnologia il tipo del video praticamente descriveva la tecnologia, e non facevamo altro che appoggiarci un piccolo subwoofer. Praticamente succedeva che la sabbia si muoveva e piano piano la macchina sprofondava, capito? Questo era più o meno un esempio molto semplice per fare capire come funzionava questo tipo di tecnologia. Eia. Ma mi ha ricordato anche un film, vabbè, un film d'ordinare, commerciale, però anche lì avevano inventato un sistema impiantato nel sottosuolo, il sistema Destino, che questo macchinario enorme, sembrava un enorme elettromagnete con avvolgimenti, tipo toroide, e potevi sempre, ovviamente, in senso mirato, generare terremoti dall'altra parte del globo, vedi Cina, come sempre, Russia. Se non che questo sistema avrà bloccato sempre tratto dal film, la rotazione del magma terrestre, ti ricordi? The Core, esattamente, il film è The Core. Poi vabbè, un'americanata, una boiata pazzesca, fanno una missione folle, riescono a salvare il pianeta. Fantascienza proprio. A seconda del danno che fa l'uomo, oia. Non mi ci può pensare. Comunque la natura bene o male si riprende, anche se l'uomo sparisce, anzi l'uomo è un cancro per il pianeta, anche prima aveva accennato quel film Ultimatum alla Terra. Se sparisse l'uomo farebbe cosa graditissima al pianeta, capito? E agli altri animali. L'elefante che si scrolla le formiche da dosso. Eia, o i microbi anche. Eia, mamma mia. Bene. Questo Trump, vabbè, che Salvini dice le stesse cose, lo sta facendo il muro col Messico, ma comunque io ero, adesso sto passando di palo in frasca, sono dell'idea che comunque non puoi fare, metti come presidente americano uno ricco sfondato che se ne frega delle minoranze, lo sai, no? Se ne frega delle minoranze, se ne frega degli esclusi, potremmo dire. Ci vuole più un uomo normale, potrei dire quasi del popolo, ma è una parola grossa. Vabbè, già hai capito, mettere uno ricco sfondato, vedi che è uno sbuffone, ogni tanto se ne inventa una. Ogni tanto embargo, blocco, tasse, adesso con l'Italia, pure i formaggi ci sta passando. Dazi, embarghi, chi più ne ha più ne metta. Un piccolo despota, piccolo grande despota. Vabbè, già non è farina del suo sacco, già lo sai. Quindi è solo un personaggio. Una solita macchietta. Come si dice? Molto pittoresco, ma è la solita macchietta. Io infatti non, personalmente non gli do neanche peso, no? Voglio dire, è il solito giullare di turno, come insieme a tutti gli altri giullari, cioè, voglio dire, è sempre la solita solfa, cambia la maschera, ma il personaggio sempre lì su, il despota, despoti sono. Cioè, vabbè, diciamo che, ti ripeto, sono solamente macchinette, poi recitano un copione e niente, quello che fanno è già stato scritto da qualcun altro, già lo sai, no? Sì, in parte, però l'idea che uno come Trump, che comunque ha un impero economico di quel livello, ci sia anche da parte sua un po' di interesse a fare o non fare certe cose. Sicuramente lui ha i suoi interessi, poi dietro c'è anche altro, ci sono altri interessi anche, forse anche più grandi di lui, sicuramente. Però, vabbè. Ci vuole un presidente più umile, poi vabbè, che poi faccia le stesse menate, può darci pure. Vabbè, discorsi troppo. Sono un po' all'asciutto. Sono un po' all'asciutto, qua perdo quota ormai. Noia, Marcoli, mi sta scendendo la biocco, ragazzi. Mi sa che stacco, dai. Piano piano. La palpebra inizia a tremare, quindi meglio che stacco, dai. Quindi magari ci si becca prossimamente, magari anche nei prossimi giorni, io ogni tanto accendo, vediamo un po' se vediamo del movimento, ok? Via già, sì, guarda, in questi giorni, questo ultimo periodo, ti dirò, verso le 8-9, certe volte mi viene una biocco tale che mi perdo il primo film perché mi trovi piegato in poltrona, drummito, e quindi ti capisco perfettamente, dai, quindi visto l'orario, un po' i discorsi nostri sono sempre un po' pesanti, dai, sentiremo meglio la casa mia. Quindi se accendi sul 10, anche perché è l'unico dove ogni tanto senti qualche forma di vita, ok? Dai, ciao già, io credo ti fossi già venuto il baracchino, perché tanto io avrei fatto così, avrei detto, beh signori, qua è morto tutto, disfacciamoci della roba che non serve più, e avresti fatto bene, mi sa, adesso vediamo se riusciremo a tenere ogni tanto, non dico ti giuro, ma una volta a settimana a fare due chiacchiere, ok? Ciao già, ciao, buona serata, buon tutto. Eia, grazie per la chiacchierata, ci aggiorniamo a più presto, ok? Niente, dai, stammi bene, buona serata, tante cose belle, dai, ci aggiorniamo presto, buonanotte. Eia, ciao, ciao, ciao.